Gatti, AMFM. Aspetta che lo guardo bene. E chi è con il cicalino? Chi è là, chi è là? Cosa ti sta succedendo? Sono gonfio. E cos'è Antonio? Allora, buonasera a tutti. Sì, buonasera anche a te. Ma siete andati lì? Io ho acceso adesso, sto buttando un po' di mondezza più che altro. Fa tornare la battuta Giulia. Sì, ho buttato un po' di quei telefoni della cosa, della telecom digitali, cioè che ti vedevi di fronte. Ne ho buttato 4-5, tanto non facevo niente, lo tenevo zia. E poi la scatola del televisore, eccetera, eccetera. Un po' di pulizia deve fatto, da? Nel salone sì. Adesso mi tocca farla in camera mia. Tengo solo quello che mi serve. Questo è un lampo. Bene a far così. Ho sentito un'ansia avanti che è ansioso, che faceva. Sono sempre io Marco, scusate, Ega. L'ho sentito che sabato parlando di omologati, no? Guarda, io ne ho provati tanti di questi omologati piccoli, ma l'unico omologato che esce bene, ma veramente bene, è questo, è il Superstar 3009, e credo che ancora si trovi, ed è omologato 40 canali, 4 watt e 12 watt in banda laterale, secondo le norme, capito? È l'unico che esce bene, ma bene. E quale sarebbe, Marco? È il Superstar 3900, è cromato, c'ha tutte le manopole, non è digitale, non è righisci digitali tutti strani, tutta manopole, è bello a vedersi, guarda, è il baracchino che preferisco in assoluto. Ehi, ma io si butta un bel cuccia. Io questo l'avevo trovato in offerta da Media Globe a 150 euro, ma era un super offerta, se no costa intorno ai 180 euro, però c'è una ricezione bella, prende meno QRM rispetto agli altri, ne vale la pena. Va bene signori, continuo a mangiare, ciao, a dopo, ciao. Sì, ok, ciao Marco, ci sentiamo. E allora Antonese? Guarda quello che ho io, il 2009, preciso identico. Io ho la mascherina dell'omologato e la targhetta dell'omologato, allora si usava così da grazie. Comunque è bello come apparecchio. Ma 281 canali, cioè quello che ho io è così, quello che c'ha lui è 40, basta togliere il ponticello e da 40 passa a 271, te l'ho anche ritrovato l'altro giorno. No. Sì, ma costa un bel, non me ne posso nulla, è un apparato che costa un bel. Ah, e vabbè, quello è il discorso diverso, allora ci mancherebbe. Tutta una cosa diversa quella, L'ho preso io, e poi deve essere omologato, c'è, anche se no sono guai, l'ho preso. Ora ho questa stronzata dell'omologazione cieca, sì, mamma mia, cazzo. Da quando hanno inventato questa storia dell'omologazione tutti siete fissati, senti. Ma secondo te, per cosa ho fatto la concessione io nell'apparato mio di 15 anni fa? Eppure, se avessero voluto mi avrebbero mandato tutto indietro, eppure non mi hanno detto niente, quindi a un certo punto. L'omologazione c'è, secondo me non c'entra proprio un accidente. Chi c'era la prima se la tiene la prima, chi c'era la nuova se la tiene nuova a un certo punto, scusa, cosa faccio? Vado in un negozio, prendo il marchio c'è, quello tondo piccolino argentato con scritto CE e lo piazzo nell'apparato. No, solo che io ho sentito il coso postale e stanno dicendo che quelli vecchi non sono più adatti al coso. Cioè, con le nuove normative ci deve essere scritto C. Io siccome sono civile da 15 anni, dico, secondo te cosa vengo? La casa e mi dicono una cosa del genere. E non mi metto l'avvocato e gli faccio fare figure di cazzo a loro. Non è così come dico, no, scusa, a un certo punto devo, allora, se io faccio la concessione e ci scrivo omologazione, articolo 334, codice PT, eccetera, eccetera, che gli ho scritto così, gli ho fatto la fotocopia del come si chiama, non me l'avrebbero accettato. Mi avrebbero detto, guardi signor Bitao, ascolti, faccia una cosa, si compra l'apparato nuovo, marcato c'è, e quello facciamo finta che non esiste. E invece non mi hanno scritto un accidente, nessuno mi ha detto nulla. Quindi a un certo punto, cioè, se uno è civile da 12 anni e c'ha quell'apparecchio, secondo te cosa fa? Cambia apparecchio e quello ce lo butta perché cazzo non è più vale, non esiste, no? Al limite sarebbe arrivata una lettera, ci avrebbero detto al limite, guardi, così, così, così, quell'omologazione lì non è più valida, l'apparato lì, a posto di quello lì, ve ne pigliate uno marcato c'è. Basta, tutto sarebbe finito lì. Invece me l'hanno accettato a me la concessione, strano. Si è pagato anche 12 euro, non solo l'altro. E c'è scritto tutto io, quello che... Gli ho fatto la fotocopia di quell'adesivo che c'era dietro, gliel'ho messo nella concessione, eppure non mi è arrivato niente. Ma con la concessione di quelli di prima non servono più, cioè, guardati la nuova concessione com'è. Non c'è scritto nulla, perché non c'è scritto assolutamente nulla. Io quando ho fatto la nuova concessione di questa storia qua non c'era neanche scritta, addirittura non è anche obbligato di metterci la marca dell'apparecchio, tanto per essere chiari, io ce l'ho messa, però non c'è scritto marcato c'è, non c'è assolutamente scritto. Se non sarebbe arrivata una lettera a casa, scusami, a un certo punto, se tu fai la concessione per un apparecchio che omologato, fai che finta che sia l'FM500S, ti avevo detto, guardi, signor tali e tali, questa concessione non è valida perché l'apparato non è più omologato per normative vigenti, ci serve un apparato marcato c'è, basta, tutto lì. E invece non ho scritto niente, nulla. Ma per quello neanche a me hanno scritto nulla, eppure ci sta dicendo che con le nuove normative deve essere omologato, cioè deve essere omologato con la nuova, con le nuove leggi che ci sono. Vabbè, quando verranno a casa mi controlleranno, mi metto l'avvocato e poi la vedremo come pensa l'avvocato a vedere. Hai capito? Non è che uno si alza la mattina e dice ci vuole il marchio C, a un certo punto allora ne stacco l'omologazione, vado ai cinesi, c'è il marchio C, quello che metto ce lo piazzi in qualsiasi apparato per dire ti compri 200 canali, ci metti il marchio C e diventa omologato secondo te. È la tale di concessione, non è giusto, cioè se metti il marchio C, ci può mettere chiunque a un certo punto, allora possono vendere anche i cinesi, ma se si è marcato C un apparato, poi prendi e te lo modifichi come vuoi. Vedranno delle cose, delle buone, non intendo. Questo è quello delle cose dell'altra volta che abbiamo sentito. Qui sono tutti cazzati, quindi lascia perdere, a futtitini. Perché uno non va, cioè a un certo punto ha sequestrato un apparecchio omologato e sequestrato il Roswell, perché non esiste. A me non mi hanno mai sequestrato nessun Roswell, l'unica cosa a me mi hanno sequestrato quando non c'avevo l'apparecchio omologato era solamente mi hanno fatto la multa. In più mi hanno sequestrato con quello gli apparecchi, non come si chiama. Addirittura nell'FT254 c'era l'omologazione, quello che si metteva nei portatili della UPI, e me l'hanno lasciato a casa. Mi hanno messo solo 60.000 lire di multa e basta, non me l'hanno messo altro. C'erano i toccai, ce l'ho ancora, guarda quel verbale, quindi... No, per quello non è del coso. Ah, chiama, sono 40 minuti, dice la polizia che è omologato e dice che è disturbato, ma ho provato tutto l'ora, no, però non ho mai disturbato a nessuno, era il televisore suo che era starato. Appunto per quello. Dunque già mi informo, non ti preoccupare, ci vado da coso a quello dell'esco, posso gli chiedere vabbè, cos'è questa storia dell'omologazione, ci vuole il marchio c'è. Mi busco quanto mi voglio di quei cosi, quelle adesivi ce li metto dietro, prendo la pellicola omologata, ci metto il marchio c'è, lo blocco 40 canali e siamo a posto, ecco. Grazie di cose so. No, tanto mi ci devo andare su al coso, alle poste centrali, dove sono loro lì che danno i fogli per i cosi. Basta chiedere lì e loro te lo dicono cosa devi adoperare. Guarda che non c'entra più Sassari, è a Cagliari. Hai capito? Devi telefonare a Cagliari come ho fatto io. Perché sono andato a Sassari e Sassari l'ufficio è chiuso, quindi devi telefonare, tirare il numero di Cagliari e poi dopo di Cagliari ti risponde. Ah, forse è meglio telefonare a Cagliari forse. E questo ce lo dice niente. Appunto, te lo sto dicendo perché l'ho fatto io, la plastica l'ho fatta io, quando ho fatto la concessione dell'apparato che ho io, non mi hanno assolutamente detto niente di questa storia qua del mancato c'è, cosa c'è, non mi hanno detto niente, nulla, non esiste, capito, non esiste. Ho detto guarda che l'apparecchio omologato è questo, gli ho detto, e non mi hanno detto nulla, deve essere mancato c'è, se c'ho il rosmetto così, se c'ho quello così, non mi hanno detto, non hanno manco parlato, me ne hanno, solo l'altro. Mi ha detto solamente ci metta il tipo dell'apparato scritto e basta, mi ha detto, non ho detto nient'altro. E poi ho preso, cosa ho fatto? Io ho fatto la fotocopia dell'adesivo di dietro, che c'è dietro l'apparato, e gli ho mandato il fotocopiato. E non me l'ha mai scritto niente, grazie a Dio, sono tranquillo. Ah, io nella concessione che ho fatto, quella dell'anno scorso, non ci ho messo nulla delle cose dell'apparato, né nulla. Quello che ci dovevo mettere nelle freccette ho scritto. Esatto, ci sono due tipi di concessioni, già le hai viste anche tu. Uno è celeste e l'altro è normale. Io ho fatto quello normale, poi c'è quello che fa 27 e PMR, che il discorso cambia. E poi ci devi scrivere se parlano tuoi figli, se c'è altra gente che modula, vogliono sapere nome, cognome, età, eccetera, eccetera, tutto lì. No, di quello non ho messo nulla, tanto sono solo io che l'adopero, e boh. Però ho messo quello di CMR e del coso, e del, come si chiama, 27. Esatto, mai ti hanno detto niente, non ti hanno mai scritto nulla, non sono mai venuti a controllare niente, allora non riesco a capire questa storia della marca c'è, non ho mai compreso. Scusa, a un certo punto allora vado alla, come si chiama, ai cinesi, ci sono tanti di quegli adesivi, di quelli tondi, con la scritta c'è, ce li metti dietro la parete e sei a posto, scusa, e sei tranquillo. Sì, Antonio, dai, vabbè, siamo così, e allora di cosa, allora, messo a posto l'hai, sì, no? L'integrato gliel'ho piazzato, devo solamente pulire un paio di piste perché quando gli ho messo lo stagno si sono toccati uno con l'altro, devo passarci adesso la calza con la Gigio, con il ossidante, come devo chiamare, la pasta salda, in modo da pulirli lo stampato, in modo si toccano due piste assieme. Poi lo provo e a posto, e quello è omologato, c'è scritto l'omologazione, quindi c'è poco da sbagliare. Andava benissimo, signor Antonello. Aspetta per se c'è ancora Giomaria. Giomaria! Ehi, sono qua, c'è Antonello. Ehi, ciao Giomaria, l'hai sentito. Ma anche quello di cosa c'è? Quello di l'apparato, quello di Marino. C'è scritto omologazione, eccetera, eccetera, scopo, punto dell'articolo, eccetera, eccetera. Il 40 canale, secondo te cosa fa? Faccio, gli metto l'adesivo marcato c'è dietro. se uno c'è la concessione di quello cosa fa? Piede o lampa? Non esistono. Sono cose contraddittorie, hai capito? A me, secondo me, sono tutte stronzate, poi non lo so, a me non mi hanno detto niente. Al telefono, quando ho telefonato che ho fatto la concessione, non mi hanno manco detto di questa storia qua del microchip. Quindi per me sono tutte stronzate, poi non lo so. Ognuno la pensi come vuole, a me non me la porti nulla. A me quando vengono qua, se dovessero venire qua, mi dovessero dire, mi porto via l'apparato, no? Dico, aspetti un attimino, sto chiamando l'avvocato, ma è tutto. Lei non tocca niente, se lo la denuncia per la protezione in debito e poi la vedremo in tribunale, ecco. Lei l'apparato lo dico, lascia lì dov'è. E lì non si muove che è mio, l'ho pagato lui, non l'ha pagato lei. E cosa facciamo? Come facciamo una volta ai carabinieri di Sentino che andavano a sequestrare gli apparecchi ECP? Perché lì, hai capito, erano belli, li vedevano così e poi se li vendevano. Siccome la gente era scema, non andava più a ritirarselo e si ritenevano i carabinieri di Sentino. È successo una volta solo quello, poi non è più successo, grazie a Dio. Ma io siccome le so le cose, perché c'è passato Mario Massa, io a casa di Mario Massa c'ero io, quindi per queste questioni qua, grazie a Dio, ne so abbastanza di leggi, quindi so quello che sto dicendo. Ma non lo so, lo vedremo. Se dovessero venire a casa, dimmi, Antonello, dobbiamo portarti via l'apparecchio, lo smetterò, no, tu non tocchi niente, questa è la roba che ho pagato io, questa è roba mia, tu la denuncia per la protezione in debita, dico, si arrangi, faccia quello che vuole. Qui non si muove, sto chiamando l'avvocato e sono problemi soli, dico. Ma loro non perdono tempo, non si aspettano l'avvocato. Loro fanno con quello che a loro dicono, a ritirare, a ritirare, dopo magari in seguito le cose si mettono in regola, capisco. Però provvisoriamente te lo prendono, capisco. Poi infatti, poi è strano, strano, io domani bisogna telefonare a Cagliari, ecco, tutto lì. Si telefona a Cagliari e si dice questo particolare, se è vero, se non è vero. E a dire che per noi non possiamo buttare la roba che abbiamo comprato, se forse buttare e comprarmi un altro. Ma ecco come si spiega, perché non me l'avete detto voi di chi ha cambiato, sono cambiate le leggi per il Marocchino? Ascolta, tu lo sai che abitavo da Mario Manser, sono abitato 6-7 mesi e ciò che c'aveva lui, una cosa sola gli hanno toccato, l'apparecchio che andava 11,45. Ma tagliate non ne hanno toccato per niente, c'aveva tutto, c'aveva i 80 mio, c'aveva anche gli altri. Perché cosa? Perché sapevo leggere cosa del genere, quindi l'ho affrontato a un certo punto. Quindi poi già lo sai, c'è il foglio di sequestro su circuito, ma non su circuito elettronica, c'è la fanculo, la adesso mi viene in mente il nome, quell'associazione CB, già lo sai anche tu, quella che avevamo iscritto un periodo con concorso, e c'è tutto, c'è scritto, quindi c'è poco da sbagliare, basta controllare lì, non ci vuole molto, hai capito, sulla CB e SER, basta controllare lì e c'è tutto scritto, stai tranquillo. C'è il foglio di sequestro, c'è tutto, basta stampartelo e glielo dai a loro. Ci sono gli decreti ministeriali, c'è poco da sbagliare, Gio Maria. Basta che vai sulla FIR e sul SER e c'è scritto tutto su queste cose qua. Ascolta, babbo, non capisco. No, io telefono a Cagliari domani, direttamente, e Cagliari mi deve dare delle spiegazioni in merito. No, mi dovevano avvisare se veramente questa legge c'è, capito? Mi dovevano avvisare, non è che devono fare una cosa così. Avvisami se hanno cambiato le leggi, no? O no? Ma non ha avvisato nessuno, è bello quello, quindi vuol dire, secondo te, se ci pensi, cosa dici, no? Vuol dire che non è assolutamente vero questa storia qua. Se tu vieni vieni a casa, mi pigli l'apparecchio omologato che ce l'ho in concessione, perché non è marcato c'è, e non ti chiamo il coso direttamente, l'avvocato, e ti denuncio per la protezione indebita, perché io ce l'ho una concessione, io quando ho fatto la concessione non c'era questo apparecchio qua, ah, dammi tu l'apparato, non me lo tu, il discorso è quello, ti può attaccare alla linea, alla lineare, quello che vuoi, ma non altre cose, neanche al microfono, anzi forse al microfono amplificato sì, perché deve avere il microfono normale, ma comunque sia, il discorso è quello lì. Ma non lo so, voi la pensate forse diversamente, ma siccome io sono i decreti ce li ho e ne ho passato come battaglia Mario Masse, quanti apparecchi c'avevo a Mario Masse, non ha toccato, manco uno ne ha toccato, tranne uno, e tutti gli altri decreti, li ha messo tutti in busta, dopodiché gli ha fatto fare il coso al tribunale, gli ha sostituito tutti gli apparecchi, uno per uno, ce li ha tutto da lì. Secondo te se vado a casa di Mario Masse, allora gli portano via tutto. Gli areali in Roma, glielo sanno anche loro già, grazie a Dio. E poi non sono andato più nessuno a girargli le palle, nessuno. Ma ce le hanno messe tutto dentro un sacco, e se il sacco di si girato gli apparecchi non li poteva toccare lui. No, gli apparecchi già li ha toccati, perché li abbiamo tutti, ho fatto il foglio di sequestro io, quando era a casa sua, gli ha detto ricordi. L'altro due ce li ha tutti esposti gli apparecchi a casa sua, ce li ha in un armadio esposti, gli manca solo l'antenna. Ricordate una cosa, l'apparato se te lo trovano a casa senza antenna, senza alimentatore, senza microfono, non te lo possono toccare. Il discorso è quello. Qualsiasi sia UHF, chi si dica mette quello che ti pare, basta che sia attaccato all'antenna alimentatore, non ti possono dire niente per decreto. In mezzo non ti posso dire, infatti sa che bisogna, domani bisogna telefonare a Cagliari, dai, e almeno siamo sicuri se è così, se non è così, e l'unica soluzione è quello lì. Infatti, no, vai demma, vedi, adesso entro nel sito della FIRCB, cioè devo avere anche dei fogli io della FIRCB. Ce devo avere, ma quelli sono vecchi, quelli nuovi di adesso li guardo nel coso, nel sito, è vero, a vedere cosa dice. Sono nuovo, ci deve essere scritto su computer, bisogna cercare, io non so come fare, l'avrei cercato, ma tu che sei pratico del computer lo puoi cercare anche nel computer queste cose. Aspetta un attimino, parlate, tanto io lo cerco e vedo cosa dice. Dai, guarda, se ne ascolta, tanto sto guardando quell'apparecchio omologato. Ho trovato il sito della PCB, te lo sto dicendo io, FilServe. Ci sono le normative, c'è tutto, non ti preoccupare. Già ti sequestrano tutto, Antonè. La canna mi sequestra meglio, lo sai. Sono troppo tranquillo io, la persona non ha capito nulla, non è come gli altri. Io non mi cago sotto. Ma bene, ciao a tutti, vado a digerire, all'anima, io che me ne stavano uscendo, un piatto pieno di quella roba. Dai, sentiamo, ciao a tutti, ciao Giammari, riprendi. Ok, ma è più male, non puoi entrare nel computer a vedere un po' com'è la situazione. Sì, ma io potrei sottoporre la cosa anche al forum dei CB radioamatori, scrivere com'è andata e mi diranno se è vero o no questa cosa. Perché se tu vai nel sito del Ministero delle Comunicazioni ci sono apparecchi di 30 anni fa, capito, che non erano norme CE, eppure risultano nella lista degli apparecchi omologati. Ehi, c'è una mafia dietro, lascia perdere. Giomari, c'è una mafia anche dietro a queste cose. Io avrei provato, io non lo so cercare, se no avrei provato a vedere un po' com'è la situazione, perché è un rebus. Ma tu ti sembra, ragazza, che io ho una concessione con l'apparecchio omologato, che adesso non lo posso usare, devo buttarlo via e comprarmi un altro con la marca C. Mi sembra una cosa strana, Ma lei ci dice, ti ho detto, stacca l'adesivo da un pantalone e ce lo metti nel coso, nella palazzo. No, guarda che c'è sulla riso c'è un numero, c'è un numero di protocollo sulla CE, capito? Che loro sanno che quel numero non è di qua da parecchio, capito? Bisogna sapere queste cose. Vabbè, tu dici, guarda, mi hanno regalato un paio di scarpe. Ah, no, non è così, no, Antonio. Guarda, che la marca c'è, ogni marca c'ha un numero, c'ha un numero. Cazzo, se no, detto come stai dicendo tu, tocco da un vestito, cazzo, e lo attacco lì, l'adesivo, no. Non è così, Antonio, non è possibile, là. Ma non è possibile neanche quello. Vabbè, comunque sì, controllatevelo, ve lo sto dicendo, secondo me sono tutte stronzate quelle, poi non lo so, vedetela come volete voi. Io ci sono passato, grazie a Dio, le cose le so. Le lavative le ho dette, quindi a me non deve venire uno a dire tu perché non c'hai l'apparato che mancato c'è e ce l'ho pagare 15 anni in concessione e me lo porti via. Non ti chiamo l'avvocato immediatamente, l'ufficio per la protezione in debita, ma stai scherzando, me lo porti via, vai, laga per via, puttidine. Antone, a volte mi meravigli, ciao Giovanni, ciao Marco, ma se è successo, abbiamo la prova ufficiale a Sassa di una persona che conosciamo benissimo, che hanno portato via il baracchino omologato nella concessione, scritto nella concessione, gliel'hanno portato via, gli hanno messo 60 euro di multa. Non ho capito perché stai facendo questi discorsi. È così, è una nuova normativa, c'è una nuova normativa, c'è dalla Comunità Europea, punto e basta, ed è così. Secondo me state sbagliando tutti. Poi non lo so, adesso lo vedremo, va. Lo vedremo. Non costa niente controllare se c'ho ragione io, se c'è ragione tu, se c'è ragione quell'altro. Non costa niente controllare. Secondo me è una cosa sbagliata, perché quando io ho fatto la concessione e ci ho messo l'apparato che ho, ci sono tanto di fotocopie della ricevo dell'articolo 384, codice PT, eccetera, eccetera. Non si sono lamentati, se mi avrebbero mandato una lettera a un certo punto, guardi signor così così, l'apparato che lei ha non è più omologato, deve prendersi un apparecchio che sia marcato c'è, ma l'avevo scritto, invece non ho detto niente a un certo punto. Il discorso è quello, cioè, a parte non è arrivata nessuna lettera, quindi non lo so. Secondo me è come dico io, adesso vedremo, si vedrà, non costa niente informarsi, non costa tutto niente, e poi vediamo se c'è ragione io, se c'è ragione tu, eccetera eccetera. A me è stato quello l'apparato omologato, mi avrebbe toccato la casa, te lo dico io, garantito. Tu sei immune, Antone, non so cosa dirti, non insisto, non voglio polemizzare. Ma io ti posso dire una cosa, se tu ti fidi di me, ti posso dire una cosa, con tutta sincerità, ok? Io ho preso il mio baracchino, io ho un Alan 48, omologato, Alan 48, ok? Un Midland, Alan 48, normalissimo, ho comprato il nuovo alla CBC, anni fa. Usato se no 6-7 volte, sempre dentro l'armadio, ed è nella concessione, ok? Poi ho fatto la foto per non portarlo perché è troppo grande, ho fatto la foto al DAC, che è un omologato vintage americano, ok? Ho fatto il fronte e il retro. Sono andato dove devo andare, ok? Perché ci sono andato io personalmente per rendermi conto, per non avere anch'io delle conseguenze, ok? E mi hanno detto sia uno che l'altro non si può detenere, ok? Se ti viene un controllo per qualsiasi cosa te lo portano via, come è già successo, e tu lo sai a chi è successo. Va bene, quindi se ti fidi di me è così, se non ti fidi di me o se non ti fidi di quello che è successo, di quello che si sta dicendo, di quello che c'è scritto, nella normativa c'è, ok, c'è anche uno spazietto dedicato alle telecomunicazioni, se vai a vedere, perché me l'hanno fatto vedere loro a me, va bene, quindi è così. è una cosa assurda, ribadisco, è una cosa assurda e vergognosa, perché tutti siamo in possesso della concessione, del, perlomeno la mia è datata 1974, con tutti i rinnovi, con tutte le sue cose, ma è in ordine, perché ho tutta la documentazione in ordine, sia nella parte amatoriale che nella parte CB. Va bene? È una cosa assurda, perché il primo baracchino che io ho messo in concessione è l'HB23 della Fayette, omologato, comprato da Pintus e Scarpa in via Cavour, che parlo del 1976-77, ok? Dopodiché ho fatto le dovute modifiche, come si faceva, le dichiarazioni, dei cambi nominativo, eccetera. Tutta mondezza, non vale più a niente, Antonè, te lo dico con molta sincerità, ma è la vera realtà. Ora, che sia una grandissima stronzata, detta in parole povere, è così, avete pienamente ragione. No, loro dicono che le leggi sono quelle e quelle devono essere. Giustamente, cosa dobbiamo fare tutti noi, chi ha 3-4 baracchini di vecchia omologazione? Dobbiamo comprare altri baracchini nuovi? Ma io non compro niente, non compro niente. Se dovesse succedere anche a me quello che è successo a quella persona, prenditelo, portatelo via, ciao, arrivederci. E non ne faccio più però concessione, attenzione, se si portano via baracchini, concessione della 27, non ne faccio più, assolutamente, finiti. A parte che se ce l'abbiamo 12 anni di concessione, 12 anni sono, non è che sia, poi se vogliono mancato c'è, a un certo punto, non esiste, capito? Si va nel negozio, si piglia quel dischetto che vendono i cinesi, ce lo metti dietro, mancato c'è, va a far culo. Ma comunque sia, io... Come ragiona questo non so io, perché non è mancato c'è, ma stai scherzando. Ho pagato la concessione un sacco di anni, allora rinuncio a loro, scusa. Prima la prestazione in debita e poi e tutto il resto. Perché ho pagato, dico, ogni anno pago 12 euro, anche gli sto pagando questi 12 euro. Se lo volete mancato c'è, mi restituite i soldi dietro, mi piglio l'apparecchio nuovo mancato c'è, o me ne date uno voi, il discorso è quello. Ma non è che era la cosa clara, scusami. È una fesseria quella, è una tonzata, però bisogna, secondo me, controllare sul sito della FICB e SER, che loro queste cose le sanno, ci sono tutti i decreti, eccetera, eccetera, come si è fatto il culo a Mario Massi per quella storia che è sua, sul sito della FICB che ha pigliato le copie da lì, ci saranno le copie anche per questo motivo qui, senz'altro, come fare il ricorso a un certo punto, perché non è possibile che uno venga a casa e ti porta via l'apparecchio, il rosmetto, ma stai scherzando, a parte il rosmetto non c'entra proprio niente. È uno strumentino che non fa male a nessuno, non è un trasmettitore, è solo uno strumento di misura e basta. E tu figurati se avessi avuto un Bird che costa, che allora costava 1,5 milioni, se te lo trovo la, ti può trovare il Bird, tu cosa avresti fatto che c'ha tutte le cose placcate in oro? Gli avresti dato, penso di no, Dice, e avresti detto no, questo l'ho pagato io, sono soldi miei, questo l'ho pagato 1,5 milioni, quello l'ho toccato. È un apparecchio che uso io, che sono l'animatore, mi interessa a me farmi le antenne, quello che è lo strumento è vecchio, però ben funzionante, molto meglio del rosmet di quello che fanno adesso, e infatti mentre quello che costruiscono, dici, questi anni qui, perché il Bird ya lo sai anche tu, c'è quelle pastigliette e costano un sacco di soldi, ognuna per ogni frequenza. Bravo Antone, hai detto bene. Il radioamatore, hai detto una frase giusta. Il radioamatore può avere una strumentazione amatoriale, che sia ricetrasmettitore, che sia ricevitore o che sia strumentazione. Ricordatelo sempre. Comunque, per qualsiasi cosa, tu vai in via Brigata Sassari, che sono a disposizione e ti spiegano tutto e ti fanno vedere soprattutto tutto, come hanno fatto vedere a me. Lo strumento di misura deve essere per gli 11 metri, per la 27, non deve essere un 0,30 o non deve essere da 0,30 VHF e UHF, come quello che aveva quella persona lì. Deve essere uno strumento di misura per gli 11 metri, per la 27, punto e basta. Questo hanno deciso e questo... E questo è, Antonè, ti ripeto, non voglio polemizzare, questo mi hanno detto, questo è successo e questo continueranno a fare. Tenendo conto che, come ho detto stasera a Gio Maria, si è rimessa nuovamente in movimento la macchina operativa che tutti ben conoscete. Quindi dobbiamo stare molto ma molto attenti, capito? Perché sono ripartiti alla carica proprio perché secondo loro si sono accorti che c'è da fare soldi di nuovo, ok? Solo per queste norme normative, e quindi sicuramente è per quello. Comunque, io poco mi interessa, ti ripeto, Antonè, il baracchino ce l'ho, lo uso, se non lo uso rimane lì, la parte amatoriale è un'altra cosa, ma non me ne frega assolutamente niente. Quando voglio venire vengano, non è omologato, non è a norma c'è, tieni, portatelo via, ciao, arrivederci, buon viaggio, e si chiudono i discorsi. Va bene, sono entrato a risalutarvi. Gio Marì, a te il cambio. Antonello, il suo parere è quello, si tiene il suo parere, ma la legge non ammette ignoranza, secondo me. Infatti, è un macello, evidentemente, infatti anche lì c'è la mafia. Vogliono sapere da cosa mi riuscivo a fare, ma io... Sempre. E domani telefono direttamente a Cagliari e vediamo un po'. Attenzione, sta guardando al computer sul coso e vediamo un po' se ne è sicuri. No, per essere sicuri io domani telefono a Cagliari e vediamo un po'. Se questo non è più in termini di legge, chiaro che non lo uso, vuol dire che me ne compro un altro. Anche se è piccolo me ne compro un altro e questo lo butto. Ma tu te l'immagini, abbiamo io li ho tre omologati, ti devo buttare. Ma guarda un po', la mafia lei c'era anche lì, c'è la mafia, voglio soldi e basta. Però purtroppo se c'è a queste leggi, se vogliamo essere tranquilli, tutto lì. Sì, ma sono d'accordo con te, fatta legge, fatto l'inganno, dice quello, no? Ciao Marco, di buonasera. Sì, ma per tantissime altre cose, come ho fatto alcune domande anche sulla parte PMR, come avevamo già detto, ma quello lo sappiamo tutti, PMR deve essere omologato, canalizzato, punto, balle e poi varà. Ma vai in oramara, ma vivi e lascia vivere, a un certo punto cosa te ne frega, se nessuno sta facendo niente per quattro gatti che sono rimasti negli 11 metri, tu ti metti ancora a fare leggi per gli 11 metri, ma fai le leggi diverse per altre cose che forse va molto meglio, capito? Tutto qua. Comunque, così è, io credetemi ho chiesto, ma a titolo informativo, perché volevo essere sicuro soprattutto per quello che è successo a un carissimo amico, solo per quello, mi volevo proprio togliere lo sfizio personalmente, l'ho fatto ed è così, mi hanno spiegato il perché e come, tutto il baraban, e mi hanno fatto vedere un foglio che hanno loro del Ministero delle Telecomunicazioni di Roma, dove c'è scritto appunto la normativa di legge, che adesso non mi ricordo qual è, che i baracchini di vecchia omologazione senza marchio CE non sono a norma, basta. Questo è questo, che se lo tengano, che se lo mangino. Ti ripeto, fatta la legge, fatto l'inganno, perché la realtà è quella, no? Non serve proprio a niente continuare a ribattere su queste cose. Poi, come Antonello, la pensa a suo modo e va bene così. Bisogna rispettare anche le idee degli altri, però le leggi sono leggi e bisogna capire che sono così, non si può modificare. Marco, a te il microfono, io vi saluto cordialmente a tutti, ma sto uscendo, ha finito di piovere, ne approfitto per portare il cane. Un abbraccio a tutti, buon fine domenica, ci sentiamo alle prossime, vai Marco. Sì, allora, buonasera a tutti. Ho letto due righe qua su, sai, gente che ne parla sui forum. Eh sì, rispetto a 30 anni fa, che praticamente l'omologazione era diversa, no? Adesso siamo tutti soggetti a norme europee e l'omologazione deve essere europea. Io non ho scritto omologato in base al punto 8 bla bla bla. Da me, dietro questo baracchino che ho omologato, c'è scritto Allora, ed è in tutti gli omologati, CE0341 ad esempio, in altri apparecchi c'è anche un'altra scritta che adesso l'omologato non c'è, l'altro perché mi ha già tolto tutto e non so dove l'abbia messo. E pare che le, non so, le vecchie omologazioni forse non valgano più. Io a questo proposito al caro, insomma, chi c'è passato, ti volevo prestare un baracchino omologato, almeno per ascoltare, almeno per ascoltare, però se poi modula, no? E questo è il pensiero mio, anche se modula ed è omologato, se lo vogliono liquidare lo stesso, liquidare proprio, trovano una scusa e gli sequestro anche l'omologato che è mio, perché non lo so, secondo me va. Capito, non deve comunque disturbare i televisori, non lo so, non si sa nemmeno se abbiano controllato i televisori degli altri per vedere se c'era qualcosa che non andava, secondo me sono andati solo da lui, con l'intento di sequestrare, capito, lo volevano liquidare, e quindi io temo a prestargli un vero omologato, un omologato a tutti gli effetti, non sia che proprio perché volendolo liquidare trovano una scusa, sequestrano anche quello, e ci perdo io in questo caso. Marco, non c'era più antenna piazzata, c'era solamente antenna della TV piazzata, quindi non è che glielo presti a un certo punto. Guarda, io ho qui un Maxon, la verità, di quelli di ST, e c'è scritto CM10, CE, il marchio 0678, poi c'è scritto in un quadratino E11 03 44 44, poi c'è scritto non buttare la mondetta, merita in Thailandia, figurati tu, c'è il cassonetto scritto in platea, tu pigli l'apparecchio, non puoi buttare una mondetta nel cassonetto. No, scusate, avevo il volume abbassato per sbaglio. Non ho capito tutto il passaggio, dimmi Antonè. Allora, io ho, dunque, stavo dicendo che ho visto che lui è antenna di baracchino, non ne ha più, l'ha staccata, ci ha messo anche la televisione, quindi non te glielo dai. E ti stavo dicendo che io ho qui un Maxon, e tu già lo sai, di quell'ultimo modello, e c'è scritto Maxon CM10, numero di serie 09, eccetera, e poi c'è la barra, quella che mettono negli articoli, vabbè, già hai capito tu. Poi c'è scritto, marcato c'è, CE0678, poi c'è un punto esclamativo con un cerchietto a fianco, poi c'è scritto in un quadrettino E11 03 44 84, e poi c'è un altro quadrettino dove c'è scritto non buttare nel cassonetto della mondezza, merita in Thailandia, quindi vedi tu. Allora, io ho un apparecchio Polmar, sempre omologato a detta della Polmar, e c'è CE0678, è un altro tipo di omologazione, sempre europea. Non so perché sia differente dalla CE0341, non lo so perché, forse perché, perché uno ha la MFM e l'altro anche l'SSP, non te lo so dire. Il fatto comunque è che se Natalino ricomincia a ondulare comincerà a disturbare di nuovo le TV e punto a capo, poi non lo so come va a finire. Potrebbe solo ascoltare, ma ascoltare cosa te ne fai? Non te ne vai nulla, cos'è mancato CE0678, giusto? Così che ce l'hai anche tu. Sì, guarda, un numero del genere, è un Polmar, quindi marca italiana, mi pare sia CE0678, credo, non te lo posso dire con sicurezza, perché mia zia qua ha spostato tutto, invece non fa altro che, viene a casa e non fa altro che spostare, da sinistra a destra, da destra a sinistra, e io non trovo più niente adesso. Sì, sì, sì, ed è una MFM, piccolo piccolo. Quindi quella è l'omologazione europea, e a quanto ho capito, gli apparecchi da usare adesso devono avere l'omologazione europea. Due righe ho letto, due righe proprio dagli utenti, da gente che ci sta in mezzo, in un forum l'ho letto. Però è anche vero che il Ministero delle Comunicazioni mette la lista degli apparecchi omologati e figurano anche apparecchi di 30 anni fa, capito? È un controsenso. aspetto. Uno ci piglia un apparecchio tipo l'Alan 48 Old e poi rimane fregato magari. Vai Gio Maria. Ma chiedo veramente. Devo riuscire a capire perché questo ha fatto casotto. E adesso vediamo un po', dai, io per essere più tranquillo, domani telefono a Cagliari direttamente, no? E non perdo tempo, almeno se ti cuore se non lo posso usare, me lo butto via, ciao, buonanotte, me lo dire, me lo compro un altro omologato di adesso e vediamo un po' cosa mi dico. No, Giovanni, dovresti chiedere una cosa, dici quello l'ha già omologato già da prima, dici mi faccia la cortesia, mi mandi l'adesivo e lo installo nell'apparato mio che è omologato, hai capito? E fai prima, così sei più tranquillo, hai capito? Tutto lì, dici mi mandi per cortesia l'adesivo lì, fammi l'apparato mio omologato, siccome il mio è omologato da 12 anni, per rinnovarmelo, così me lo metto a fianco a quell'adesivo che c'ho da prima e sei più tranquillo, si attacca l'altro ramo, capito? Se non ci vuole molto basta prendere un apparato di quelli modello vecchio, modello nuovo, di passi il phone, si stacca l'adesivo e glielo metti nell'apparato tuo, si stacca l'adesivo il vecchio, li metti il nuovo, ma cazzo c'è, non ci vuole molto, come si fa nei ricevitori e roba del genere. Basta fare così, è la parte omologata, cosa c'entra? No Antonè, ma tu sei matto, ma cosa adesivo ti mandano da Cagliari l'adesivo? Non ti mandano niente, è quella che falsificare un'omologazione è una cosa ancora più grave, mi. Come avevi fatto tu con un certo FT7B che gli ha messo l'omologazione al baracchino, ma tu sei matto. Claudio, dimmi cosa? Le FT25A, sono le FT7B, non rompere. Ma ti fai serio Antonè, ma scherzato stai? Fa gravi la situazione, non si può fare una cosa del genere. Assolutamente non si può fare, ragazzi. Aspetta che c'è Tore, Tore. Ah, Tore sta ancora mattando il truco a bruco, chiude. Marco ripresi. Ah, Torello è pazzo stasera. Guarda che prima la modificazione era fare Giorgio Grassi, se ti ricordi Claudio, per essere chiari, c'era l'adesivo di mettere nell'apparato e ti facevi l'apparato omologato, il discorso è questo. Quindi non costa niente chiedere a loro, cioè se tu c'è l'apparecchio vecchio che è già omologato, se lo voglio mancato c'è, ti mandano l'adesivo loro e glielo metti a fianco, non costa niente. Non è che stai facendo una truffa. Lo sai, solamente cosa ti posso dire, sistemando le cose, tutto lì, se vogliono l'adesivo c'è, va a far culo di lometto e basta. Lo faccio con la penna io. Diglielo, se non gli mettiamo il marchio dei cavalli. Mi. Oh, 30 anni fa c'era un CB che si è fatto una targhetta in metallo, mi, serigrafata, e ci ha messo anche quei due per fissare al telaio, quei due puntelli di metallo, come si chiamano? Occhielli. Sì, ma la parecchia non è omologato, quelle sono cose che non si può fare, deve nascere l'omologato dalla casa, Antonè. Comunque, a quanto ho capito, Squalo, non so se ci dirà dove. Squalo, cosa hai letto? Dici qualcosa. Ribattini comunque sono occhielli. Ribattini, non mi veniva il termine tecnico. Cos'è che volete sapere da me? Ho guardato nella cosa della Fircipieno, non ti lasciano entrare nel coso loro. Hai compreso? Devi essere iscritto con loro, devi essere iscritto. Con le norme che c'hanno, devi essere iscritto con loro per sapere tutto quanto. Vado provato a entrare e non ti lasciano entrare. Devi essere iscritto con l'argento, non con loro. E mi sono entrato, non ero goggio d'edde, non ti lasciano entrare se non sei iscritto. Tu hai detto che devi entrare nel coso del loro, io entro nel coso dell'argento. Buonasera a tutti, belli e brutti, avanti Sole. Sì, buonasera signor Bacchi. Come ti stiamo? E allora Marco, questi CB come vanno? sì, io ho letto due righe, credo che ci vogliano apparecchi a norme europee, che abbiano questo, non è un bollino CE, notate bene, non è solo un bollino CE, c'è proprio un marchio dietro, un adesivo con scritto CE0341 oppure CE0678, poi non so se ne esistano altri, e quella è la moderna omologazione, non esiste più la vecchia omologazione, omologata in base al punto 8, codice PPT, quella è roba del passato, solo che tutto, cioè si, come si dice, si contraddicono anche alla, al coso, al ministero, al MISEMI, al Ministero dello Sviluppo Economico, perché figurano anche i vecchi tra gli apparecchi omologati, capito? Allora o è omologato o non lo è l'apparecchio vecchio. Solo che adesso vogliono sapere direttamente loro, non vogliono sapere. L'importante è che quando vengono a controllarti sia omologato o c'è, con la sigla e tutto quanto dell'apparato. Boh, basta Gusti. E quando vengono qua, sai cosa dico? L'apparato è questo. Segnate, però fatevi la fotografia, la omologazione, e poi mi mandate l'omologazione della Cagliari e la stessa del ricco. Perché io ho la concessione della Beretta di 12 anni, quindi non va a cambio il ricco. Beh, cosa? Per se il mercato c'è. Che cos'è? Roba cinese il ricco. Io non l'ho comprato in Cina, l'ho comprato in Italia. Arrangetevi il ricco. Ma ci sono camionisti che hanno la parecchi Midland piazzate in camion, che sono tutti fuori norma, piazzate lì con l'effetto ecco, l'effetto di cosa, ma cato c'è, ma stai scherzando. Allora siamo tutti da sequestrare. Ehi, ma il problema di Natalino non era avere un baracchino omologato qui, il problema di Natalino era solo uno che faceva un TVI feroce, magari la colpa era degli altri che avevano antenne fradice, però sono andati da lui, cioè sono andati da Natalino solo per quello, perché faceva un TVI feroce, bloccava anche un computer, per quello sono andati. Se voi non fate TVI non credo che vadano a voi a farvi i conti in tasca, capito? E hanno fatto figurare che gli hanno preso una parata quelli là, capito? Il discorso è quello visto lì. Se non sarebbe stato così tranquillo, il caso tranquillo che se non sarebbe stato così tranquillo. Con tutto quello che c'ha non avrebbe passato lì, ci ha potuto dirmi. Quindi gli è andata bene. Nel senso, vabbè, buono, sto parlando io. Io lo sai che sono dei calimoti dove abita lui, quindi a un certo punto lo minacciavano già da 4-5 mesi quelli che sono, forse 6. A un certo punto lì, lo sai, la legge è più forte di Emi, a un certo punto. O ti fai rispettare o se si fa tutto, il discorso è quello. Però a me interessa sapere anche se sono state, perché Natalino non dice nulla, non si sa, non sa nulla, se hanno verificato l'impianto all'antenna dei vicini, io quello voglio sapere. È troppo comodo andare da lui, dice, ah non è omologato, c'è, sequestriamo, risolto il problema, non è usino. Se gli altri hanno le apparecchie, perché ricordati che Natalino a casa sua non disturba, disturba solo gli altri che devono avere antenne o cavi messi peggio, vecchi di anni oppure impianti malfatti, quello bisogna sapere. Ci hanno controllato anche quegli impianti, troppo comodo, vanno da quello del CP, ah non è omologato, c'è, sequestriamo, risolto il problema non è risolto. Ma infatti non è risolto il problema è quando a me sono venuti che avevo fatto la denuncia a me e io disturbavo, invece non era vero, me mi hanno controllato prima l'apparato, ho guardato se disturbavo davvero, ho controllato tutto e non disturbavo. Hanno controllato l'impianto suo e l'impianto suo non funzionava bene, era vedeva tutta la striscia, vedeva. E gli hanno fatto pagare la multa, gli hanno messo di aggiustarsi l'impianto. A me non mi hanno fatto nulla. Ma è così, allora sono andati per quel motivo che disturbava. E lui sapeva che disturbava a continuare ancora, mi sembra che abbiano avuto delle parole. magari quello ha fatto la denuncia e la questione si è aggravata di più e è un macello. È un macello vero e proprio, per carità. Vai Marco. No, no, parole non le hanno avute, non credo almeno. Era un semplice controllo. Ma adesso faccio un'ipotesi, se a Natalino si piglia un omologato nuovo, a norme c'è, ricordati che le emissioni erano regolari, eh? Le emissioni Natalino erano perfette, non c'aveva spuri e non aveva armoniche, no? Se Natalino adesso si piglia un apparecchio a norma, super omologato, moderno, e disturba lo stesso, come va a finire? Devono per forza controllare gli impianti di queste persone, che Natalino, come loro hanno diritto di vedere la televisione, però Natalino paga la tassa, ha tutto il diritto di modulare i metri 7, se è per questo. Però non deve disturbare, evidentemente c'è qualche cosa sull'apparecchio o sull'impianto della TV, che infatti devono controllare uno e l'altro per essere una cosa giusta, secondo me. Infatti è così, pensa che Natalino, guarda che bastardi che sono, scusate la parola, ma è da dire, Natalino si era offerto di mettergli a posto l'antenna, questi qua, no? A mettere l'antenna nuova in modo che non prendessero disturbi. No, non hanno voluto, l'hanno voluto proprio fregare, capito? Sì, a quanto ho capito è gente proprio che non ragiona, capito? Che non ragiona, magari sa, e purtroppo chi ci perdiamo siamo sempre noi, perché noi sulla Costituzione non dobbiamo disturbare, e adesso bisogna anche vedere se veramente non sono andati o se sono andati e hanno controllato anche quell'impianto, non lo sa. Bisogna dirlo, chi lo può sapere, qualcuno che frequenta quelle persone. Guarda, io personalmente sarei curioso di vedere i verbali, vedere cosa hanno fatto e cosa non hanno fatto. E secondo com'è è possibile fare anche un esposto alle scomposte e a vedere un po' cosa succedesse, capito? Perché bisogna sapere queste cose, perché se non hanno fatto le cose giuste, cazzo, sono cavoli loro, ma non penso che loro facciano cose che non devono fare, però potrebbe succedere anche queste persone. Spero di no, però sai, ogni tanto lasciamo perdere, dai. Da me sono venuto, mi hanno fatto vedere la denuncia, che sono venuti qua, mi hanno fatto vedere la denuncia, mi hanno detto signor Pina, lì c'è una denuncia, dice ci fa vedere il suo apparecchio, io gli ho fatto vedere il mio apparecchio omologato, tutto quanto con la licenza e tutto, loro hanno controllato prima l'impianto mio e non disturbato, poi sono saliti da quello che ha fatto la denuncia, gli hanno controllato l'impianto suo non era a norma di coso, e gli hanno detto si metta l'impianto a posto, e gli hanno messo la multa di 67.000 lire era allora. Beh, non è sempre il baracchino che disturba, il baracchino magari se le emissioni ce l'ha giuste, sono le antenne degli altri che insomma. Gianfranco, sei tu? Sì, buonasera, stavo ascoltando, ma cosa è successo? Chi è andato? Allora, poi ci spiegherei qualcosa sulle apparecchie a norma CP, non lo so se sai qualcosa. Niente, sono andati in Antalino perché facevano TV e feroce, no? Però il dubbio che siano le antenne marce dei vicini, no? Hanno trovato questo baracchino omologato di 30 anni fa, che però non era norme CE, non aveva quelle nuove omologazioni tipo la mia CE0341. E praticamente l'hanno sequestrato scrivendo apparecchio non a norme CE e gli hanno messo 60 euro di multa. Però non si sa poi se abbiano nemmeno verificato le antenne di vicini, capito? E... Boh, il ministero un po' fa tutta una specie di rodaglia, cioè ti mette da una parte, ti mette gli apparecchi omologati, la lista di apparecchi omologati, ci mette roba di 30-35 anni fa, no? E da una parte ti dice che devono essere a norma CE, tu non sai niente per gli apparecchi CP? Sì, però ho capito che c'è andato, i vigili urbani, i vigili del fuoco, che è andato? No, l'esco post e due della postale pure. Ah, ho capito. Quindi l'esco post, perché sento qualcuno che diceva che di andare all'esco post a fare un sforzo, ma se l'hanno fatto o stanno parlando dopo, ma nel senso che ci abbiano fidarsi in oggetto per fare questo. Io so una cosa, ti posso dire, perché mentre parlavate ho fatto una piccola verifica dei miei apparati. Io utilizzo apparati, come sapete, diciamo radioamatoriali, cioè radioamatoriali, radioamatoriali non ci sono in realtà, sono professionali, perché con i nuovi apparati digitali non è che li fabbricano proprio per i radioamatori gli apparati, ecco. E ho controllato questa faccenda, in effetti tutti gli apparati sono accompagnati proprio da un foglio, cioè da un foglio scritto dal responsabile della ditta produttrice, non italiana, cinese in questo caso, in cui dichiara la conformità dell'apparato alle leggi europee, ma non solo europee, americane, PCC e compagnia cantante. Perché da un certo numero di anni è prevista questa omologazione, questo rispetto dalle normative delle varie nazioni, quindi non è a livello italiano, è attenzione a livello europeo, ed è per questo che hanno sicuramente fatto il verbale, perché mi mancava questo certificato di conformità. Ti dico di più che non è per gli apparati CB in realtà, è per tutti i tipi di apparato, quindi anche per oggetti, stavo leggendo che sequestravano quegli apparati che usano, che danno la scossa, no, per fare i muscoli, perché non conformi alla normativa europea, quindi non certificati CE. Tutto lì, quindi il problema non è che facesse disturbo o meno, la scusa magari era quella che sono andati, però il problema non era quello. Sì, confermo, tutti gli apparati omologati hanno il certificato di conformità, in effetti. Una volta non c'era, c'erano le istruzioni, al limite lo schema elettrico. E quindi è così, dai, apparecchi europei, non è più solo omologazione italiana, ma è un'omologazione europea. Quindi munitevi di un apparecchio che esca bene, omologato a norma europea, perché quelli piccoli escono bene o male sempre cupi, barattolosi, se volete ve ne faccio sentire uno, è una schifezza, però è omologato. Scusando gli altri, non è quello il problema di uscire bene o male, è il problema della conformità, che è un'altra cosa, capito? Poi i miei sono, cioè, sono cinesi, escono bene, sono assolutamente a regola, perché ripeto, c'è il certificato con tanto di firma, di specifica proprio dalle normative europee e internazionali anche. Quindi non è così come la fanno semplice. Evidentemente questo è un apparecchio vecchio, non so di che anno fosse, ma nel frattempo sai la legge come si dice, sembra che non metti in razza. Hanno sequestrato anche dalle macchine utensili, pensa. Poi per finire, poi rilancio gli altri. La cosa strana è che gli volevano sequestrare un rosmetro accordatore da 1 a 30 MHz, cioè un rosmetro accordatore da 1 a 60 MHz, un MFJ, no? Faceva sia rosmetro che accordatore, dicendo non so che non era norma CE, ma ci sono prodotti commercializzati dalle Americhe in Europa e poi in Italia, non dovrebbero avere comunque. Mi è sembrato molto molto strano. Ma non so cosa dirti, io so che la questione è data da una parte tutti i prodotti, qualsiasi prodotto che entri in Europa, così dice la normativa. È così. Il fatto è che non hanno previsto che ci sono anche prodotti vecchi, non è che c'è tutto il televisore perché non è c'è, ecco, è quella la sostanza. Ehi. Gio Marì, fai una piccola spesuccia, gli dati un piccolo omologato, ma magari non lo so quale esce bene. Io so che questo esce di radio abbastanza bene, ma Superstar sono sempre usciti bene di radio. Ed è omologato, 40 canali. Non so se si trovino ancora, ma forse da Radio Smitter si trovano ancora. Radio Smitter è un venditore di eBay. E purché ve lo dia omologato, cioè che non vi arrivi con 30 watt, 10 watt AM, eccetera, capito? Buonasera anche a Gianfranco, per sentirti dopo tanto. Ma io guarda, io non sono meravigliato infatti adesso, lo stavo cercando uno proprio omologato delle leggi nuove europee a vedere un po', e questo vuol dire che me li metto in vetrina, soltanto me li guardo, e cosa vuoi fare? Torre, non c'è Gianfranco? Sì che ci sono, buonasera Gianfranco. Sì, buonasera a tutti. Sì, ma potrei farlo anche al dubbio perché c'ho anche io. Ma il dottore l'antenna che è abbastanza nuovo, diciamo così. Ho guardato dietro, in effetti c'è l'etichetta. Normative c'è, bla bla bla, Ross e compagnia cantante. Non sa mai, sono oggetti costosi. È meglio essere. Meglio controllare. Devo controllare la targhetta. Anzi, c'ho anche la Fayette che sono emulogato. C'ho anche il Zodiac, sulla concessione c'è anche il Zodiac, così che bisogna controllare anche quella. Ma sono parecchi 30-40 anni fa, cazzo, non penso che sia valido adesso questa volta. Penso che l'omologazione non valga più quella lì, capito già? Sì, lì bisognerebbe chiedere a Cagliari, però dicendo guardi, io ho tutte le autorizzazioni eccetera, però l'apparecchio è vecchio, ce l'ho da tanti anni, cosa devo fare? Lo devo buttare via, lo devo dismettere anche se funziona e prendermi uno nuovo? Si sente un po', tanto sono abbastanza gentile io qui. Domani telefono a Cagliari direttamente e vediamo un po' la situazione com'è. Vai tu! Stiamo lasciando a Bacchisio in stand-by. Oh signor Bacchisio, c'è ancora? Mi sa che ha serrato Bacchisio, non l'avevamo più fatto entrare. Ha serrato, mi pare. Vabbè, c'era questo discorso, per cui magari il discorso era un po' lunghetto e si vede che lui magari aveva altre cose da fare, ha mollato tutto e se n'è andato. E vabbè, non è successo niente di grave comunque, dai. Marco, a te vai. No, ma non è che ce li devi buttare, ci mancherebbe, se non ci sono altri problemi. Natalino, vabbè, disturbava, poi bisogna vedere se era, anzi era colpa degli altri, perché lo so. Vabbè, noi in baracchino le emissioni erano regolari, ricordati cosa hanno detto. Quindi la colpa era delle altre antenne fragiche o vecchie, 40 anni. Tu lo usi, poi se bussano, chi è? Esco a posto, un attimo che sono nudo. Stacchi il vecchio omologato, metti il nuovo omologato e li fai entrare, finisce lì. Metti bollino, c'è, nel pisello si è a posto. Però c'hai quel rosmetro, gli hanno preso perché faceva anche le altre frequenze, misurava anche, capito? C'era VU, che è per quello che gli hanno preso. Sì, ma un rosmetro non trasmette, un rosmetro è solo un indicatore di misura, è un oggetto che serve a misurare. Se tu non hai l'apparecchio che trasmette in V e in U, perché te lo devono sequestrare se è tutta roba regolarmente importata? A messa di abuso, non lo so, perché se vogliamo lasciamo perdere anche gli esami dei radioamatori, no? Natalino è stato bocciato, gli hanno detto all'esame dei radioamatori che il compito era uno dei migliori, quindi qualcuno lì ci ha messo bocca e l'hanno voluto bocciare. E guarda che interferire in un concorso pubblico è una cosa molto molto grave, c'è una mafia in giro, miri, per quanto riguarda queste cose amatoriali eccetera, c'è una mafia che si taglia a fette, guarda. Marco, che io... se tu dovessi avere un birdo, lo sai il birdo cos'è? Un rosmetro? che c'ha le in pratica cosa ti posso dire, delle placchette, sono tutte placcate in oro dentro. Secondo Guscia, se non avessero sequestrato quello, tu cosa faresti? Che costa quello, costa un sacco di soldi. Un birte che fa un sacco di frequenza, c'ha delle, ogni placchetta c'è una frequenza. Quello che usavo io in pratica quando lavoravo con Marco Vitti. Tu mi guardi tu, se dovessero sequestrarmi una cosa del genere, cazzo, e non gli faccio causa immediatamente. C'è quasi 1,5 milioni di roba, c'è. Adesso guarda la fesseria. Adesso chi è che ha un Rosmetro per la 27? Tutti ce l'abbiamo, no? Uno ZG bene o male ce l'abbiamo tutti, o sbaglio, Gio Maria, Squalo, Bacchisio. Io ce l'ho l'HP1000 e della ZG, ti puoi mangiare oggi e portalo via anche quello. Sì, e beh, anche quello sarebbe illegale allora, e ti dico perché. Perché anche quello è un rosmetro che funziona da 26 e 30 MHz. Non faccio da 27, quello misura le stazioni da 26 ai 30 MHz. E allora cosa cambia? 26, 30, 1, 30? Sarebbe un volume illegale quello, dovrebbe fare esclusivamente 27, ma non esiste un rosmetro che fa solo 40 canali, è una cosa ridicola. Va bene. Gianfranco, riprendi, dai, io faccio una pausa. Riprendete voi, faccio la parola a Gianfranco, faccio una pausa io. Sì, ma no, volevo dire solo che anche lì mi sembra strano che abbiano sequestrato il rosmetro, perché quasi tutti gli strumenti non coprono un certo range di frequenza, non è che se ricostruiscano da A di norma. Comunque ho controllato anche i rosmetri che ho io, e hanno il marchio CE, anche una radio un po' datata, diciamo di avrà un 7-8 anni per dire, l'ho aperta e dietro c'è il marchio CE normativa 0678. Tutti gli altri risultano apparati evidentemente non conformi, ecco. Tutto lì il discorso, è un discorso di conformità. Non c'entra niente poi che vada su questa, sull'altra banda, è solo un discorso di conformità. Quando sentite che la Guardia di Finanza fa i sequestri di tanto materiale cinese, è soprattutto perché non c'è il marchio CE di conformità, o c'è la falsa addirittura con singlezzane. Tutto lì. Anzi, ti dirò di più. Volevano sequestrare il Rosmetro a correttore MFJ945E. Rosmetro a correttore MFJ945E. Che fa da 1 ai 60 MHz. No? Volevano sequestrare quello. Siccome lui non voleva che lo sequestrassero, allora loro si sono accontentati di sequestrare il Rosmetro VHF-UHF. Cioè, secondo me siamo andati lì con la cosa che qualcosa dovevano sequestrare, no? per fare materiale, non so cosa pensare. No, ma non è che vanno nel fregattare a quelli, è una scocciatura, va, e basta andare a fare questi controlli. Hanno preso quello perché effettivamente è strano, nella stazione CB trovano un apparato VHF, capito, cosa te ne fai? Se è in HF, quindi anche per 27, ok, ma se per VHF c'è qualche dubbio, sempre che sia marcato c'è sempre quel discorso lì. Comunque così, va bene, io devo scappare, vi chiedo scusa se sono intervenuto così, ma era interessante in effetti il discorso, è raro, oramai non c'è più nessuno, ogni volta che si trova un discorso interessante si applica. A te Gio Maria, buona serata a tutti comunque. Ciao Gianfra, faccio piacere di essere sentito, buon proseguimento di serata e ci siamo alle prossime, vai. Ok, vai Ettore. Ehi, siamo voluto, vuol dire che avevamo voluto sequestrargli qualcosa lì e boh, andava. Io a me, che hanno soggettato anche io, ce l'avevo io il Rosmetro attaccato. Non mi hanno detto nulla a me. Ma controllato dopo di canti sia di fatto, e cosa? Se c'erano stazionari era tutto a posto, ma non me ne va tu altro. Ma ti sono stati da Edo, hanno controllato da Edo. Ma era Edo che era tutto buccio mare di antenna e delle cose, e vedi a tutto mare. E poi c'è la contromenzione a Edo invece che a me. Ma tanti anni fa magari adesso è diversa la legge, per cui io lo capisco proprio tu. Poi io domani faccio quella telefonata, ripeto, e lui la rassicurare, perché queste cose loro cazzo, se uno della base cittadina, se io non so leggere, cazzo, se io non so leggere, questi che non è che sulla concessione mi hanno detto che doveva avere un certo titolo di studio, se io non so leggere cosa faccio, questo caso sai com'è la questione, mi dovevo informare che questi apparati vecchi non valgono più e sarei stato sicuro che io questi apparecchi non li posso più tenere, capito? Secondo me è così. Insomma, purtroppo siamo, ecco, bisogna informarci e sapere cosa dobbiamo fare. Adesso proviamo domani a vedere se sono libero, cerco di telefonarmi. Telefono anche io dopo, dai, telefono anche tu. Per sapere a vedere cos'è questa cosa qua. Se no ando dammi da Nicchio, da sua al coso che delle scomposte stesso, che sta nella polizia postale da loro, che fa la tramite. E chiedo a lui, chiedo. Vabbè, mi fai sapere allora. Ok. Riprendi Marco. Eia. Ma non c'è nulla da chiedermi. Voi basta che vi dotate di un apparecchio omologato nuovo. Ce n'è di marca CRT, ce n'è un sacco, una sporta. E vi tenete quello da mostrare ai controlli. Poi te la giudico, no? Usciano, ti è, esco a posto. Un attimo che sono nudo, mi vesto. Togli il vecchio omologato, metti il nuovo. Prego, prego, venite a vedere. Tutto lì è. No, aspetta un attimino. Loro ti chiamano. Ti chiamano per il numero che hai lasciato nella concessione, il numero del telefono, loro ti chiamano, dice guardi che domani noi veniamo a fargli il controllo, ti chiamano, che ora possiamo trovarlo, ti dicono, e tu gli dai l'ora, gli dai, non è che vengono lì e cose ti trovano, no, ti chiamano prima. No, no, a Natalino sono andati a sorpresa, lui ha aperto la porta credendo che fosse la moglie e se li è trovati davanti. Non poteva imboscare nulla, perché lui ha aperto direttamente, non ha chiesto nemmeno chi era. E li ha dovuti far entrare. A me, vabbè, tanti anni fa mi hanno avvisato male, e non mi hanno avuto. Lasciato il biglietto, hanno lasciato a mia moglie. Gli indomani sono venuti. A me Manaudo, il monogado è così, Manaudo. Ci hanno controllato tutto. E arrivederci, maledetto. Pensa un poco. Però adesso, con la concessione che c'hai, loro c'hanno il numero e ti avvisano. Ma sai cos'è? Se loro ti avvisano, è chiaro che c'è uno, anche se c'è un 200 canali, mettono omologato e gli fa vedere quello. Loro devono venire a sorpresa per coglierti in flagrante, casomai. Se no tutti allora tolgono i Kenwood, tolgono tutto e mettono l'omologato. E così è troppo facile se ti avvertono. No caro, non è così la legge, non devono venire a sorpresa, ti devono avvisare che stiamo arrivando, che veniamo domani per controllarti l'impianto, ti dicono. Natalino allora gli hanno fatto l'agguato, cosa vuoi ti dica? È perché forse c'era l'esposto. Ehi, vabbè, sì c'era. Ma comunque sono gente ceragoni. Gente che si voleva afferrare, capito? Gente ignorante era. E intanto purtroppo adesso l'hanno vinta loro, solo che Natalino, siccome paga i 12 euro, è liberissimo di pigliarci un nuovo omologato e modulare. Solo che se vedono che lui è in regola e gli altri non sono in regola, la multa la mettono agli altri, a quelli che hanno le antenne fradiche, come è giusto che sia. E se controllano quelli là, avvio. Ma sulla concessione c'è che tu lo puoi disturbare, che poco da fare, ecco, così che devono controllare quell'altro a vedere un po' se dipende da loro. Lo so, in teoria non dovresti disturbare, però se la responsabilità è di quello che è l'antenna fradicia o il cavo marcio, allora multano quello che ha il cavo marcio. A Squalo hai visto, anche a Torre Squalo, la colpa era di quell'altro, non era di Torre Squalo. Sta incontrando tutto stazionario, tutto canto, sono venuti con un apparecchietto, loro sono venuti e me l'hanno attaccato l'apparecchietto e hanno controllato prima per quanto usciva, e poi hanno controllato se c'erano con il rosmetro mio, se c'erano stazionarie, ma non c'era nulla di né stazionarie né nulla, era tutto perfetto. A vederci, sono saliti da lui, sono saliti, avevano controllato la televisione, hanno detto che era tutto starato il televisore, e poi si vedeva tutta riga, si vedeva a giovane da due o cose, non vedevano nulla della stazione mia, si dovrebbe sentire la voce e non sentivano nulla, ma adesso che chi su va lo televisore vecchio con il decoder vecchio e gli entrava deve essere. Eia. Oh Pomponio, ma quando lo chiami non c'è mai, dai. No, che apparecchio era? Un Maxon mi pare, quello è Natalino, non mi ricordo. Un nome del genere, o Goldatex o Maxon. E c'ho la foto dell'omologazione, che è di quelle omologazioni vecchie, erano di 30 anni fa. E vabbè, comunque finì niente di nuovo, io ce l'avevo già, l'avevo preso apposta proprio per avere un omologato moderno. Perché quelli vecchi, boh, magari non rientrano in europee, già lo sai, no? Quindi, boh, se volete chiamare, chiamate, ma non gli mettete la pulce all'orecchio e poi vengono l'indomani a sequestrarvi il vecchio apparecchio. anche io ce l'ho quello vecchio, l'emologato, però vogliono vedere quelli nuovi, emologati, cioè nuovi. C'è un adesivo, quanto mi dai? Antonello, che marca era l'omologato di Natalino che li hanno preso? Non lo so io, ho visto che era tranquillo, non si è lamentato, non ha pianto, non ha fatto niente. Mi è stato detto solamente che era un apparecchio piccolino, poi un altro ha detto, dice che sono partiti da Olbia, l'Escopost, a me mi risultano fatto la stazione, non da Olbia comunque, è tutta una cosa strana, ma comunque sia. Allora è qua a Sassari che c'è uno e più c'è la polizia postale che viene. Lì c'era un apparecchio piccolino, non so che cosa, un apparecchio vecchio piccolino, nero. Cosa so che marca che levo di marca era? Tanto sa che a me sta tranquillo, non mi avrebbero toccato, perché avrei chiamato immediatamente l'avvocato e sarebbero stati a pari loro, sarebbero stati. Stai scherzando, come pigliano l'apparecchio omologato da casa a me e ce lo portano per i fatti loro. Avrei denunciato per la proporzione in debita immediatamente, avrei denunciato con l'avvocato. Prima di tutto, se c'è la concessione a me l'apparecchio non lo tocchi, e tanto meno lo smetto. Quindi, se il poti via, quello che non c'è omologato, che c'è anche, anzi, a parte quello me lo segna, mi fa un verbale e me lo segna, che mi stavi sequestrando quello. Non è che ti porta via l'apparecchio così, e poi fanno come facevano i carabinieri di Trentino, tanti 15 anni fa, che prendevano gli apparecchi di CB e poi se lo rivendevano. Scusa Pomponio, guarda che c'è già una sentenza dalla Cassazione su quello che stai dicendo, e quindi il sequestro è obbligatorio. Adesso lo vedo, cosa vuoi ti dica? Non costa niente controllare quello che stai dicendo tu, non mi costa niente. Se c'è ragione tu, se c'è ragione io, non c'è problema. fatto sta che a me, se io ho la concessione con l'apparecchio che è omologato a casa da 12 anni, non me lo toccano a me, a futtidini. Pomponio crede di essere al di sopra delle leggi. E un'altra cosa poi, Pompon, se accusi l'arma di quello lì che è un gravissimo reato, puoi essere immediatamente denunciato per calunnia e tante altre cosette, quindi occhio, in radio a non dire cose se non c'è le prove, se non c'è già una sentenza riguardo a atti compiuti da componenti dell'arma. Sì, a parte non ho detto niente, per tutto a me, se io ho l'apparecchio omologato e ce l'ho 10 anni in concessione, a me non me lo possono sequestrare, il discorso è questo, ti posso denunciare per la prestazione indebita, il discorso è quello lì. È sempre stata così. Oia, Pomponio, l'allaccio ti fanno anche me. Oh, posso un attimo? Allora, l'apparecchio natalino era un omologato Goldatex 4008, con una vecchia omologazione, protocollo di CSR 24 del 3789, quindi era la vecchia omologazione, quindi non è a norme europee, eccetera. Insomma, già l'abbiamo capito, mi vai Gianfranco. Sì, ma se lui, a prescindere da quello, se tu vuoi dire che io e Sistino sono staccato, ripeto, cosa è un reato gravissimo. Se questo non è vero, non so quello che dice, perché è immediatamente denunciabile, veramente vanno a casa a prenderlo. Adesso, non confondere le cose, fra. 15 anni fa i carabinieri di Sentino hanno sequestrato due apparecchi a due CB di Sassari, li hanno sequestrati e se hanno presi, se hanno anche venduti uno solo l'altro, hai capito, tutto lì, ma ti parlo di 15 anni fa, non di più, quindi sono cose vecchie, non c'entrano niente in quello. Quindi sto parlando adesso di adesso, se a me dovessero venire a prendermi l'apparato mio omologato, io chiamo l'avvocato e l'apparecchio sta tranquillo, rimane a casa, non si muove, perché se no le denuncio per la prospezione di debita, il discorso è quello, chiaro, e da lì non ci piove, perché non te lo possono sequestrare, prima di tutto, perché io ho fatto la concessione me l'hanno accettata, sto pagando i 12 euro, quindi basta, il discorso è chiuso. Se mi trovo altre cose, tipo apparati radiomotoriali oppure apparecchi che non sono omologati, eccetera, eccetera, allora c'hanno ragione, come si faceva un bel po' di anni fa. Siccome io ho l'apparecchio, quello lì uso e quello lì tengo. Quando io ho fatto la concessione, che l'ho mandato a Cagliari, non me l'hanno mandato nessun foglio, non si sono lamentati, quindi quello lì tengo, il discorso è quello lì. Poi ci pensa l'avvocato, cosa vuoi dire che io? Farà il foglio di sequestro, c'è il foglio cioè i moduli per il sequestro, non è un problema per quello lì. Poi si vedrà, il discorso è quello lì. Scusate un attimo, io siccome devo chiudere che mi hanno chiamato, ci sentiamo le prossime, ok? Ciao Antonello, ciao Marco e ciao Natalino, ci sentiamo alle prossime. Non c'è, perché ci sono gli altri. A quanto ho capito, a questo gli hanno sequestrato il baracchino, sicuramente non hanno fatto, i carabinieri hanno sequestrato, non gli hanno fatto un verbale di sequestro, se è vero questa cosa, e ce lo sono tenuto, oh, non lo so io, oh, pecore nere c'è lei anche nell'arma, mi guardate amore, c'è, oh, giù che c'è un casino, sono ai fedi corti, vai Gianfranco. Sicuramente sì, sicuramente sì, ma lui sta dicendo, sta praticamente dicendo di persone, anche se di 15 anni fa, che prestavano servizio di lì, bisogna vedere se queste persone poi sono state condannate o meno, perché se non sono state condannate, se non c'è una sentenza in giudicato, sono innocenti, quindi lui sta accusando degli innocenti, è quello che non vuole capire, capito? Comunque è così, e nulla, purtroppo anche sulle batterie, se tu togli la batteria, quella batteria lì che sono, e guardi, c'è il marchio CE con tanto di specifica, di matricola, eccetera, eccetera, perché devono rispondere a normative precise, tutto il discorso. Poi certo non le costava niente dire attenzione signori eccetera, ricordate gli apparati devono essere a norme da qua, dall'anno, anche se non è che sono recinti, perché ripeto l'apparecchio che stavo guardando era abbastanza vecchietto, però ce l'ha. Questo affare qua dei carabinieri, sai di che anno è Ofra? Marco Tuccini, era dell'anno di Panino di Palmaro, figurati tu, ti parlo negli anni 85-86, tutto lì. Basta. Comunque sì, la questione del questo marchio c'è, non c'è arrivato nessun foglio a nessuno. Se tu paghi la concessione tutti gli anni e rinnovi la concessione, un foglio ti deve arrivare, no? Per fare rinnovo, per dire. Al limite ti avrebbe fatto, guardi, guardate così così, da oggi in poi questo apparato qui non è più omologato. Prendete un altro apparecchio, vuole marcato c'è e basta. Allora al limite ci avrebbero mandato, per dire, un adesivo da mettere dietro all'apparecchio che ci abbiamo, tutto lì. Invece non è arrivato niente. Siccome una volta gli adesivi, se ti ricordi bene, gli forniva cosa? Di omologazione, gli forniva quell'arrematore che se tu andavi a pigliare per dire il tornado, Giorgio Grassi, te li forniva lui, ti forniva la mascherina, addirittura anche l'omologazione. Prima ti facevi l'apparato omologato, tutto lì. E poi la vedremo come la metteremo con loro a un certo punto, perché sta pagando 12 euro, allora mi devo ritrovare tutti i soldi che io ho versato dagli anni che è uscita questa normativa qui, e mi pago la multa con quello. Qual è il problema? No, non cambia niente, perché sto pagando allora in debata, cioè come pagare il canone per niente se il televisore non è marcato così a un certo punto, tanto per dire stronzate. Quindi io meno male sono la presa di 12 anni che pago la concessione, quindi sono tranquillo, mi sento tranquillo. A voi, e da loro cosa diavolo fare, grazie a Dio non sono mai venuto, e mai li ho cercati e mai ci verranno. Basta non cercarli, non disturbare nessuno, mai ci verranno. Il discorso è quello, lui magari ha avuto problemi con il rione, sono andati lì e l'hanno ammazzato, il discorso è quello lì, non è che dobbiamo farci per forza uno, come ti posso dire, un casino su queste storie qua, purtroppo è così. Vabbè, comunque ci informeremo sulle questioni nuove, magari ci manderanno l'adesivo nuovo da mettere a posto di quello che c'è, ce lo manderanno da mettere a posto, glielo attaccheremo dietro all'apparato e siamo a posto. E ci abbiamo l'apparato omologato, non costa niente, come si faceva una volta, che mandavano l'omologazione direttamente da Cagliari. Ascolta, riprendo io, dai, che devo chiudere per qui, ne approfitto, dai. Vedremo cosa succede, qualche cosa diranno domani, per cui vi saluto tutti, dai, cordialmente. Gianfranco, Antonello, Marco, chi altro c'è, non ce n'era nessun altro, e gli ascoltoni. Buona tutti, buona buonasera e ci sentiamo. Vai Giafra, io chiudo. Sì, ciao Gio Marì, buona serata. E buona cena anche. Adesso da tantissimo tempo non ci sentivamo. Alle prossime. Sì Antonio, poi tieni presente se vai in giudizio, a parte i costi, no? Non sono 60 euro sono una cretinata. Ci possono anche stare. Fare un avvocato ti costa ben altro, se quella sentenza va male sicuramente andrà male, ti costa molto, ma molto, ma molto più caro, te lo posso garantire. Tutto lì, riprendi per il salutare Gio Marì. Aspetta, mi è andata male adesso perché mi sono bruciato il panino alla faccia, per colpa tua, va a cuffia, seguendo a te. Ciao Gio Marì, ci sentiamo alle prossime, stai bene, buon tutto. Adesso mi devo decarbonizzare il panino, grazie. Ci ho messo nel fornetto, seguendo a te. Aspetta che tocco la parte bruciata. Già ci sono io qua, dai. Oh Marco, quello, vedi, quello è un fornetto che ha preso. Senza il marchio ci è, per quello si è bruciato. Eia, roba cinese, non omologata. Non ha norma. Ehi, vabbè, Pomponio, certe volte non so se scherzi o se lo dica davvero, di pigliare targhette, di omologare apparecchi con targhette di apparecchi omologati. Ma lì è folle, oh, c'è chi l'ha fatto 30 anni fa. Proprio ho applicato una targhetta di metallo, perché all'epoca erano di metallo, la serigrafata mettendo frotte, sai, tutte quelle cose lì. E ho messo i ribattini proprio, sarà morogato, ma a rischiare cose del genere, poi all'epoca era roba, ma la gente è matta, ma non fino a questo punto. E comunque Pomponio dice sempre che a lui non gli fanno niente, che lui c'ha il diploma INAPLI, che è perito elettrotecnico, quindi lui c'ha, non lo so, lui è invulnerabile. E io già rido il giorno, eh? Il giorno che vengo te le mando a casa tua, anche perché poi così me lo rifai la colazione. Ecco, questa è la risposta. Bastardo. Ciao Fry, barrato. Questa era la risposta migliore, veramente. Cosa gli vuoi rispondere quando uno fa la musica? Ah no, c'è perfettamente ragione. Cioè, uno che non capisce cosa significa marchio CE, veramente. Ti ho già detto che la conformità non è che ti mandano la targhetta. La targhetta ci deve essere già quando la compri. C'è anche la vera e propria dichiarazione di conformità scritta, un tanto di firma dal responsabile, cioè dal proprietario dell'azienda, capito? Quindi stai dicendo tante di quelle fesserie, Antonio, che veramente c'ha ragione Franco. Probabilmente ti lasciamo perdere per quello, dico, ma quello no, è poverino. Già io marco io, Pomponio ci scrivo come marchio. Tanto già abitavo in via Ricci, domì, prima, dove c'è il manicomio. Se noi guardiamo, anche nelle macchine ci sono le targhette che sono, come facciamo a cambiare la targhetta di una macchina e quando corrisponde, corrisponde per dire a una Peugeot 206, o magari se ci mettono una targhetta di una fila, non può andare. Scusa, non è se qual è il problema? Sto mangiando, non sai che sto scherzando, ma a un certo punto a Napoli arrivo anche a quello, non solo l'altro. Vabbè, Napoli è un altro mondo parallelo, però non ti preoccupare che a Napoli ne fanno di tutto di più, si fanno le omologazioni come i bolli e le assicurazioni. È peccato che poi non risultino nel registri, ma tutto lì è il problema. Vabbè, io me ne faccio la cena, che Pomponio mi ha fatto venire fame. Ciao Marco, ciao a tutti, ciao Antonello, ciao Franco, buona serata, scappo via anch'io. Cosa mangi di buono, Franco? Non lo so, adesso devo decidere. Va ma omologata mancato c'è, perché se lo sai che sta sicuro, se non è mancato c'è, non puoi mangiarlo, mi lo sai, no? vediamo un po', se lo trovo mancato c'è, qualcosa da mangiare. Possibilmente mancato Sardegna, mi auguro. Che è meglio anche. Oi oi Antone, bene, bene a serata, va, un po' monopolizzato abbiamo poi, ma meglio che procurassero un apparecchietto così per Gioia Maria, per Torre Squalo, eccetera. A proposito, di traverso, Antone. Grazie, grazie. Sto mangiando, aspetta un attimino, poi ti rispondo dopo. C'ho anche il cane appresso qua. È stato petto le palle, voleva farsi già. Picchia, avevo la pompa, già lo sai. Vabbè, signor Franco di Sorcio. Franco, mi copi? Scommetto che mi copia, che mi copre la propagazione. In FM, questo qui è omologato, mi sì, quello spagnolo deve avere qualche kilowatt sotto per arrivare 9 anche qua. È turco. È turco. Turco, turcomanno. Che turcomanno in FM comunque. Arriva a 9.15 qua. Sì, dalla lingua sembra turco in FM. E tu dici, salam alek. Nessuno ti becca lo salammo. Sentite cosa ha detto in turco, Antonè. Ha detto salam alek. No, ha detto stu, ha detto se le tu le vuoi leccare il salam. Sta fresco lui. Eh beh Claudio, comunque come com'era la girella, la pulizia della girella, la sostanza è sempre quella, pigliate voi apparecchi omologati c'è, perché i vecchi pare che li stiano stangando. Io già lo so che è così, ma ti ripeto, poco mi interessa, ma capito? A me mi interessa più di tanto, a me chi mi interessa è la parte amatoriale, che sono tutti a norma c'è, perché sono radio di ultima generazione. Poi del baracchino, quando vogliono venire, se lo portano via mi fanno la cortesia. No, ma forse, poi io so che i radioamatori possono costruirsi le radio, quindi norma c'è fino a un certo punto, se le possono proprio costruire dal nulla. Però guarda per i CP, noi abbiamo norme e regole proprio da seguire, almeno per gli apparati. Io vabbè già ce l'ho, non è che ha voglia, c'è anche quello che usavo in macchina, e quindi, però il problema di Natalino era un altro, il TVI selvaggio, agli altri però, non a lui. Capito? Sicuramente aveva l'antenna Fradici, però hanno controllato solo lui, perché l'apparecchietto non era a norma CE, tutto lì. Se non c'entra nulla mia, Antonè, col bollino CE è un'altra cosa. Ci deve essere scritto il CE0341 oppure CE0678 e deve avere il baracchino nel manuale, deve avere il certificato di... aspetta com'era? Vabbè, già l'abbiamo detto prima. Di conformità, certificato di conformità, che i vecchi apparecchi non avevano. Certificato di conformità della Comunità Europea, aggiungo, capito? Cioè è meglio che c'è un pezzino di Mortadora invece, 23 anni, lì dove c'è Grobbo, nel pomeriggio. Ha slittato con la macchina, si è ribaltato, si è incendiata la macchina, è rimasto dritto, molto, caputo, carbonizzato. Ma che norma c'è? E quando? Primo pomeriggio. Oh, sì, poveraccio. Morto, mamma mia. Sto leggendo di capottamenti, gente capotta, perché o è bevuta o è fumata, sai, droghe. Anche una donna di 62 anni mi pare avesse capottato l'altro giorno. O comunque si è sbattuta alle macchine, ha centrato un gioco con tre macchine. Guarda, la Beauty è brutta, in Sardegna non ne parliamo. Va l'avevo già visto, ma si stava facendo lavorare, poveraccio, ma voglio dire, cosa niente è successo, io faccio il globo, la curva faccio il globo, e quella discesina lì, la curva faccio il globo, se l'avessero affaltata quella strada che fa schifo, è liscia come, come l'olio, strada bagnata, e ci ho fatto la macchina, si è ribaltato, è rimasto dentro carbonizzato. Hai capito? Il problema è che ha visto la moglie, anche noi era molto, solo che ha pigliato fuoco la macchina e quando sono arrivati i vigili del fuoco non si sta tenendo a fare. Ehi, no, non dico lui, e quindi è bruciato vivo lui, c'è. Poveraccio, lì è liscio, sì. Finché non ci scappa il morto non fanno mai niente a Sassari, capito? E beh Claudio, ma quindi ti stai un po' dedicando a... all'allevamento? No, non ci sono mai a Sassari. No, non c'ho tempo e poi, ti ripeto, poca voglia ce n'è, c'è mai nessuno già. Ma sono a casa, c'è gente, c'è la partita e quindi sono qua. E vi saluto pure perché è già tardi, sono le 8:15, vai. Ciao Franco di Giorgio, ci sentiamo. È sotto il cavalcavia, oh, c'è la fotografia, proprio sotto il cavalcavia dell'uscita di Città Mercato. No, perché di vicino a Globo. Capito? Allucinante, un ragazzo che conosceva anche mia figlia, bravissimo ragazzo. Lavorava lì a Fredanietta in un negozio di abbigliamento. Va bene signori, dai, io vi saluto, fatevela buona, buon fine domenica a tutti e ci sentiamo alle prossime, ok? Così è, e così è stato deliberato. Franco Di Sorso, riprenditela, fai girare, QRT per me, buonasera a tutti. Ciao Claudio, bell'entrata, ci sentiamo allora, dai, vai via, alle prossime. Grazie, ehi vabbè, sono cose che succedono. Purtroppo certi incidenti non perdonano, va bene, guarda che vuoi fare. Avanti, Antonio. Abbiamo le storie peggiori di Roma noi, l'hai visto quella ragazza? Nel fosso ci è uscita dritta dritta dalla moto e si è ammazzata, quindi Sassari è peggio. Vai dove c'è il sindaco tu, gli fai cassare a lui. Se la gente siamo in video da 23 anni, stai tranquillo che non aveva più... Non aveva fatto più sindaco Edo, perché aveva bruciato i sedi a carrozzelle, a costo di andare in galera. E purtroppo è così. Hai capito? Prima ci sono le elezioni, dopo ci sono le, c'è il resto, se ne fregano le balle i sindaci, fanno solo quello che vogliono loro. Sì, promesse fanno come questo governo, la stessa cosa. Però, fra, allora te ne fotti più nulla, trova il muro di Fauri, poi andate a Gemmo e si abbiglia nel guascio. Ciao a tutti signori, dai, che è tardi, c'è gente, è pronta la cena. Buon fine domenica, alle prossime modulazioni. Vai Marcolino Condor, no tornata a Pignara. C'è solo la nuova, la notizia, poveretto. Sì, sono le foto, un casino, mamma mia, poveretto. Ortu si chiama, come si chiama? Esce a vedere, Alessandro Ortu, mamma mia, 23 anni, allucinante. Va bene, buona cena Claudio, dai. Invece uno ha fatto vedere, quando è ieri, ha fatto vedere al corso il culo alla vigilessa dicendogli leggimi la targa adesso. L'hanno arrestato. Intelligente chissà, mamma mia. Ciao, ciao. Antonello, dimmi tutto. Capito, al corso Vittorio Emanuele uno è uscito dal circolo, non so quale circolo, c'erano due vigilesse, ci ha passato i pantaloni, ha fatto vedere il culo e gli ha detto adesso leggimi la targa. Sì. Allora deve essere stato fuso, perché subito non le facevano mai la stessa una cosa del genere. Sì, poi il corso Vittorio Emanuele, figurati che galantuomini ci devono essere in circoli, vabbè, e quindi l'hanno chiamato rinforzi e l'hanno arrestato di brutto, non so per quale articolo, forse atti retroscena, no, forse più cosa pubblico ufficiale, o come si chiama, non mi viene in termine, oltraggio. Oltraggio a pudore? No, oltraggio a pubblico ufficiale. Sì, vabbè, quello che è. Ho mangiato, aspetta che vado a bere una cosa e sto arrivando subito. Eia. Comunque se la tetta di mordazione ce l'ho là io, della Maxo, 15 euro, lo faceva grassi una volta, le vendeva le tacchette di mordazione insieme a Frontalino. Se volete ce l'ho là io. Beh, diciamolo in modo diverso, probabilmente grassi lo faceva abusivamente, cioè faceva un reato, omologare apparecchi non omologati. Se avete venduto quasi 15 di quelle targhette, 15 compresi anche i Frontalini, tutti superstati 2009 erano, ho tornato 4.000, anzi tornato 4.005 per esattezza, comprati da lui con la targhetta di omologazione e il Frontalino con scritto tornato 34S. Figurati, mamma mia, va bene, cioè va male, no, non va bene, no. Non si scherza con le omologazioni a fare questi giochetti, non, a quello che rischi, fai prima a comprarti un omologato vero, tipo questo, che pure esce bene, riceve bene, capito? E basta. Adesso devo rintracciare col baracchino, era qui, quello Polmar, non lo so, mi è arrivato, ha tolto tutto e non si trova niente, è la solita, il vizio suo, sposta da sinistra a destra, da destra a sinistra, sia in camera mia che in altri posti, non trovo le giacche, non trovo più niente, sto per mettere a posto, allora è meglio tenere tutto in disordine e trovo tutto però. Eia? Eita, volevo chiudere la tangente, dai, ci sentiamo. Ciao Marco, buon proseguo, buon tutto. Ciao anche Antonello. E ce la riascoltiamo, ciao ciao. Eia, ciao, Fra, credevo che non mi copiassi, quindi non ti avevo rilanciato per quello. Abbastanza bene, io ti copio sempre bene a te. Ma diciamo, non a livelli alti, però ti ascolto bene. Segnali di 7-8 modulati, ti ascolto bene. La radio è buonissima. Ciao Marco, mi devo scusare, ma devo provare. Ciao Fra, ciao. Ciao Fra, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, buon tutto. Come ascolti Marco, con Saturneco, bene, sì. Bene, bene. Sì, già esce bene. E quindi va bene, una giornata leggermente piovosa. Questo l'ho detto, volevo offrire a mamma da mangiare, dovevo andare da Osciana a pigliarci un kebab, non ne ho avuto voglia. Non sta uscendo molto, ma anzi ben poco sta uscendo, sta diventando sempre più oltre casalinga, diciamo. E muoversi le fa ancora peggio per quella artrosi dell'anca che ha bilaterale. Però obbligare non la posso. Allora se abbiamo mangiato a casa, pazienza. Sì, vabbè, non ti preoccupare, adesso appena sto aspettando che mi accreditino con la storia in banca, andiamo in banca alle poste e poi ci prendiamo la pizza assieme, ce la pago io. No, ce li ho i soldi, mi. Per ora ce li ho. Vabbè, anch'io ce l'avevo, c'avevo 600 euro, solo che momentaneamente me li hanno bloccati, perché mi hanno dato in più, hai capito? E quindi sto aspettando che intorno al 15, 20 maggio mi accreditano tutto, perché ho consegnato l'ISE in ritardo e quindi me ne vado a accreditare 3 mesi. Sì, dopodiché ti fai a porco, no? Io non credo proprio che faccia a porco, io lo sai, non sto facendo a porco per niente, sono... faccio più che altro la spesa, sono a casa, qualche volta che esco vado da Nicco, bevo una birra, poi ritorno a casa come ho fatto stamattina, e più che altro me ne piglio 3 per tutto il giorno, e quindi... tanto ceno e almeno c'ho qualcosa per digerire. Ma 3 birre o 3 casse? No, no, tre mattine, cazzo, tre casse, ma aspetta, cosa aspettiamo? Quello di notte che c'era a real time, quell'americano si beveva 12 casse di birra al giorno, più si beveva i liquori, e pesava quasi 300 kg, ma stai scherzando? È possibile? No, no, grazie a Dio già mi muovo io. Sono tutti i giorni in giro, so. Andiamo la mattina alle 6 e mezzo per svegliare, andare a Linam a fare i documenti per Giampiero. E poi alle 9 sarò a casa se tutto va bene. E poi vedremo un po'. Devo tirare i panni dalla farmacia, quindi figurati tu. Ah, i panni, sì. Bene, io adesso devo fare il caffè per tutte e due. Sì, faccio il caffè. E quindi magari mi stacco dal baracchino, dai. Oggi abbiamo anche un po' monopolizzato troppo il 23 tra una battuta e l'altra, dai, però già è quella l'orientamento. D'altronde anch'io ci pensavo, ho detto ma come fa un 500E, un FM 500S dell'85 a essere tuttora a norma europea addirittura, pensa, ma vabbè, va bene. Antonio, dai, ci sentiamo un'altra volta, casomai ci vediamo una cosa da bere, basta che ci sia un po' di sole, no? Che non sia brutto il tempo. Ok, anche al circolo va bene, capito? Sì, va bene, non ti preoccupare per quello. Mi piace la bella ragazza al bar, che c'è l'età tua, anzi è appena un pochettino più piccola di te pure, ma è buona davvero. Comunque sia, tu immaginati uno che si compra un Midland alla 68, il camionista, cosa deve fare secondo te? Ce lo butta, io ho visto tutti i filmati su real time di questo tipo qui che si è fatto tutti i camionisti, pranzo e cena e cosa del genere, c'erano tutti quei Midland così, alla 68, modello vecchio, figurati, non modello vecchio, quindi cosa dovrebbero dire a un certo punto? Cosa fanno? Gli tolgono quello lì, ma non esiste. Infatti capisco, ricerco, più vedo sto mio, il camion, arrangiati. No, se lo uso, a parte che i camionisti hanno ben altro di illegale, ci avranno minimo linearoni, eccetera, quindi il baracchino è l'ultimo dei problemi. Sì, ma tu guardi, sono tutti Midland. Tu guarda quello di Alzheimer, quel tipo che va a cena a pranzo con i camionisti, tutti hanno il baracchino Midland piazzato sopra, che l'ho visto io l'altro giorno, hai capito? In Alta Italia. C'è loro che si, addirittura lo chiamano lo zingaro, c'ha i capelli lunghi, i baffetti lunghi, c'ha... E quello c'aveva il Midland, modello vecchio, non modello nuovo, il Midland modello vecchio, no? 68, figurati, senza quell'effetto eco normale, non ce l'aveva, era normale. Sì, lo so, quelli che guidano il camion sono fissati con... col Midland alla 48, alla 68, boh, sono degli stereotipi anche. Ci sono tanti baracchini altrettanto buoni, altrettanto modificabili, se li vogliono modificare, non capisco perché questi Midland, poi il Midland alla 48, l'Old, è un baracchinaccio, era come l'Intec 548 SX, era un baracchinaccio quello che ho svenduto là. Vale poco, vale quello che costa, poco e niente, capito? E loro ne fanno un mito però di questo Alan 48. Mi spiace, ci sono baracchini molto più validi, molto più selettivi, molto più silenziosi e già ne trovi di caratteristiche molto migliori del 48 volt a non finire. Io già lo so, vabbè, figurati. Quello c'era mi sembra che la dal 68, se non mi ricordo male, l'ho visto così per sfuggita, quindi figurati tu. E lui ogni volta faceva Italia, e adesso mi conosce Spagna, cosa diavolo faceva, ogni giorno. Faceva quella tratta lì, non le faceva, ecco, lui partiva da un punto e andava di là, poi tornava indietro. lui si è messo un attimo lo zingaro perché non ci stava mai, è sempre in giro in pratica. Comunque era sposato, quello sì, io l'ho visto su real time, l'ho visto, ma te guarda in real time, senz'altro lo vedrai anche tu. C'è quel tipo che va insieme ai camionisti a pranzare, a cenare insieme a loro e fa un viaggio, capito? E fai filmati. Eia. Eia, eia. E c'erano belli filmati ai camionisti, poi tutti i nomi originali, tipo Peppe Cinque Bossoli, altri, tutti i nomi, capito? Cacciuti, come si potrebbe dire oggi, ma tutti con 48, poi le modifiche, vabbè, sono varie, che sono o estetiche oppure doppio modulatore, eco colte, le solite cose, sono tutti uguali, tutti lavorano come ragazzi, tutti in jeans, tutti in jeans, non trovi mai un ragazzo delle medie, dei superiori che si distingua, che si mette in pantaloni o roba del genere, sono tutti come le pecore, capito? Tutti col jeans, tutti vestiti uguali, tutti con le scarpe da ginnastica, quelli sono gli stereotipi, mi, capito? Sì, gli apparati da parte sono tutti quanti modificati, non c'è uno sano, figurati, usano il lineare, cosa del genere, il giorno che dovessero sequestrare le cose, le sequestrano a loro, non venivano usati quei camionisti. Ma a trovarlo c'era uno omologato, tutti con quell'effetto da coso, anche tu la ecco colto eccetera eccetera, con l'effetto sbagliato che fa come faccio io, e l'effetto sbagliato lo chiamo io quello, sembra che sia locato trodiato da una cosa all'altra con i fagioli. E poi certi usano potenze veramente spropositate, si mettono lineari da 1200 se non di più, ho visto un lineare fatto, non so se fatto a mano, fatto su richiesta, roba di 2400 watt, una roba folle, si mettono cose aggiuntive, alternatori aggiuntivi per riuscire a alimentare il lineare, oppure doppie e triple batterie, insomma, già ci avrei perso tempo io. È la passione quella lì, ricordati come fai, quando fai il camionista e come vive, cosa ti posso dire, in un robot, fare uguale, quindi il camion è la tua casa e a un certo punto se vuoi parlare con qualcuno parli con tutti, con tutto il mondo, e quindi ti vede uguale. Il discorso è quello lì, quando vai a casa ci vai solamente fine settimana, due giorni, poi torni di nuovo, arrivi il sabato, fai quello che devi fare, la domenica sei nuovo partendo, la domenica notte, per lunedì mattina. Dopodiché quando vai in pensione sei tutto rincoglionito, non capisci più un cazzo, quando, cos'è sabato, cos'è domenica, cos'è lunedì, chi è tua moglie, che non è tua moglie, quanti figli sono i tuoi, magari i figli che hai non sono mai qui tuoi, cosa ne sai? Già. Vabbè Antone, io sono un po' in fase calante, dai. Vado a fare sto caffè e poi vediamo se c'è qualcosa in TV di passabile, dai. Ok? Ci sentiremo pure, ci vediamo pure. Uno di questi giorni, col bel tempo magari. E quando vuoi non c'è problema, tanto io sono facendo documentazione per mio fratello, quindi a un certo punto. Stamattina ho visto un tipo, ti giuro, guarda che sono rimasto allibito, stavo per fargli una fotografia, siamo alla carrozzina e lui in pratica aveva la ruota, la batteria, il manubrio agganciato alla carrozzina e tranquillamente la carrozzina camminava per i fatti suoi via Roma, andava, saliva, scendeva, tu immagini che adesso tranquillamente puoi, per dire, prendi una bicicletta, li metti la batteria e andi, e te ne andi in giro senza patente, senza nulla, senza casco. Vabbè, non è che gli metti una batteria e va, avrà bisogno di motorino collegato alla catena, alla ruota, non so, insomma bisogna sempre perdersi tempo, dai. lui c'aveva la carrozzina dietro, normale, come l'ho vista, come la conosco io. Lui davanti c'aveva in pratica l'auto era davanti, trasportava lui la carrozzina, e mangia dentro con la batteria, quindi c'aveva il motorino senz'altro. Bello tranquillo mi inviava, saliva, scendeva nelle già macchiate la cosa, la... Non ho mai visto una cosa del genere, guarda. Senza patente, senza nulla. Ho visto questa cosa tre volte, ho giocato, mi sembra strana cosa. Solo era una carrozzina modificata. Con manubrio, il freno e l'acceleratore per la batteria davanti e il motorino. Quindi in pratica chi comandava tutto era la rotella davanti. Sicuramente non è a norme c'è. Sì, e cosa gli facevo da quello? Se questavo il cappellino? Vai. Poveraccio, c'era... per loro penso che c'era lui 100% di validità. Ma sono sicuro, come c'è un sacco di gente che ho conosciuto io, e piglia, se ne pesa, hai capito? Si alza, va, si fa la spesa, poi piglia, si siede e se ne va con questa specie di motorini così, senza assicurazione, senza polo, senza nulla. Ci sono lì le moto elettriche, lo sai, no? Non so quanto vengano, si chiamano UFO. Tu guarda il TCS, ci sono gli scooter a due ruote e a tre ruote. Sì, li ho visti all'ultima, li ho visti alla fiera dei Sassari, non mi ricordo se l'ultima o la penultima, c'erano varie moto elettriche, motorini, mi pareano piccoli scooter, elettrici, ma solo che erano, non era tipo Aprilia, Piaggio, erano tutte marche mai sentite, roba che magari oggi c'è, domani non c'è più, non trovi più ricame, non trovi nulla, boh. Non so, ma comunque sono belli, la verità sono belli, perché non c'è bisogno di nulla, non c'è assicurazione, non c'è bollo, non c'è patente, quindi te le fotti le balle, ti puoi sbronzare, ti centri uno, chi se ne frega, mica paga l'assicurazione. Vabbè, però un veicolo in strada che non sia una bicicletta, sia motore, qualunque sia il motore elettrico o benzina, dovrebbe essere, credo, coperto assicurazione. E se non c'è la legge la faranno presto, vedrai. Così ha detto il cosa ne so, la pubblicità. Non c'è bisogno né assicurazione, né di bollo, e di niente, quindi tu prendi lo scooter, lo compri, lo usi e te ne vai in giro tranquillamente da quanto sta. Se fai 250 km mi sembra, con un pieno di batteria, quindi non lo so. Ma vediamo cosa ne so io, vediamo quanto costa, se è fattibile, si può anche prendere, tanto a me lo risparmi di assicurazione, se ce la fai, quanto so, 500 euro di assicurazione all'anno, che risparmi. Se investi qualcuno però devi pagare in tasca tua. Sì, basta non investire da nessuno, basta stare attento, a meno che non ti mettano sotto, se ti mettono sotto il discorso cambia, non ti paga solo lo stesso, paga in tasca tua. Pensa, quando io avevo lo scooter, non lo scooter scusa, io nel 90 ho avuto il ciclone della Garelli, anzi era il super ciclone della Garelli, è stata la mia prima moto, ed era a marce, non era uno scooter, era una moto a marce, un motorino a marce, aveva le stesse marce che ha la moto vera, no? Allora, non esisteva targa, pensa, nel 90 non esisteva la targa per i ciclomotori, non esisteva assicurazione obbligatoria, non avevi obbligo del casco, era tutto un altro mondo. Però io l'assicurazione l'ho fatta, costava 50 euro all'anno, no, 50.000 lire, 50.000 lire all'anno, era una fesseria, perché ho detto, e se metto, se malaugurottamente investo qualcuno, piuttosto che pagare di tasca mia, paga l'assicurazione. Poi io mettevo il casco anche quando non era obbligatorio, o almeno non sempre lo mettevo, però spesso lo mettevo il casco e non era obbligatorio. perché c'è, come dire, è questione di sicurezza. Se cadi senza casco ti si apre la testa in due, col casco almeno forse ti fai meno male, capito? Riesci a resistere. Sì, già ti apre la testa in due lo stesso, anche se c'è il casco a tutti i piedi. Se c'è poca gente col casco che è stata ricoverata, come abbiamo fatto il casco in due, si è aperto in due, si è aperto a tutti i piedi, meglio che sì. Il casco peccato ti tiene la testa incollata, però se quando che il colpo prendi il casco lo sai, è un peso in più, se ne tocca l'osso del collo. Vabbè, ma adesso è anche obbligatorio, quindi cioè per piccole cadute, piccole fesserie, no, il casco va più che bene. Magari cadendo, scivolando, tocchi il marciapiede con la testa, se non è il casco ti fai male, col casco no. Ma io mi ricordo all'epoca, caspita, non esisteva la targa, nulla, i ciclomotori erano privi di targa, capito? Niente assicurazione, niente casco, tu compravi e andavi, non era una cosa fantastica, poi era cominciato, targa o assicurazione prima e targa dopo, insomma targa, assicurazione, il casco obbligatorio, non c'è più poesia, capito? Niente più vento nei capelli. E il bollo? No, il bollo lo pagavo già. Il bollo si pagava, era tassa di circolazione, ma era una fesseria, mi era tipo 20 euro, una cosa del genere, no, 20.000 lire, era una fesseria, Antonio. Adesso, cazzo, non, scusate il termine che ascolta, non puoi fare un'assicurazione per uno scooter perché non ci arrivi, almeno noi che abbiamo poco di... abbiamo pochi soldi noi, capisco, già dobbiamo arrivare a fine mese, caspita, 200 euro semestrale, quindi sono 400 euro all'anno, se ti va bene, se no sono 500 euro all'anno pure, è troppo, mi dispiace, non ce la faccio ancora. Ho chiesto io, sono 500 euro all'anno, sono, ho chiesto io, con Giuseppe sono andato, e trovato bene, ho trovato un motorino, gli ho detto 50, ho detto 250, no, ma cosa sto dicendo, mi ha detto, lei ha ancora gli anni che fu, non mi ha detto, e detto perché quant'è, 500, allora faccio la cosa, ho detto, se lo tengo il motorino, se la tocca in culo, gli ho detto. Sempre delicato tu, non si può parlare così alla gente, no? Ma tu immaginati adesso, magari compri uno scooter a 50 euro e l'assicurazione costa 500, e chi se ne compra più, anche usati, anche a 50 euro, 100 euro? Infatti non sta comprando nessuno, sai quanti ce ne sono scooter, cioè, a 50, 100 euro, non è vero, è pieno di sassari. Perché non riesce più a mantenerlo, capito? Poi magari lo lasci fuori 5 minuti, passano l'imbecille e te lo vola pure. E infatti come l'imbecille, perché lui con l'assicurazione se lo usavano alla faccia tua, hai capito? Che tu sei obbligato a avere i documenti dentro la moto. Quindi passa se te lo ruba, lui viaggia tranquillamente per un anno a conto tuo, hai capito? Succede un incidente, lo paghi tu in tasca tua, non lo paga mica lui, no? No, Antonio, cosa stai a dire? Se dovessero rubarmi la moto assicurata, io vado subito, telefono all'assicurazione e dico bloccate l'assicurazione. Bloccate l'assicurazione. Se la paga l'investitore, capito? Il ladro se la paga. Ma tanto il ladro scappa e quindi... No, non è così, Marco. Te lo sto dicendo io perché ci sono passato io, con Gulliver. Quando mi hanno rubato il Gulliver a me, io avevo appena assicurato da 3 mesi. Sai che non mi ha risposto l'assicurazione? Dice, ormai c'è assicurato, dice, deve sperare, dice, che quello lì dice, non faccia... qualche fesseria, non faccio qualche furto, ecco, non ammazzi nessuno, mi ha detto, dice, perché dice lui non può fare niente, mi ha detto, ah così, gli ho detto. Allora gli ho detto, le cose, ho detto, vedrai che camminando, ho detto, l'assicurazione, alla sala l'assicurazione, ho detto, perché non la puoi posso assicurare, ho detto, un anno, ho detto, l'assicuro, ho detto, 2 mesi, che è basta, non assicuro, ho detto, se va bene così, ho detto, se non, ho detto, vi attaccate al fame, ha giurito. perché invece se dovessero fare, cioè se mi rubano la moto, ho detto, dovessero fare un furto, ammazzano qualcuno, ho detto, per sbaglio, ho detto, chi paga sono io, no? Ho detto, non è quello là, ma ce la faccio, ho detto, a pagare, ho detto, di tassa mia magari, e quello per tranquillo se ne fugge, lascia la moto intera e se ne anda. Oh, ma se è rubata il ladro il responsabile, guarda che sono i, forse ti hanno detto una cosa a quelli, le assicurazioni sono dei farabutti, capito, sono dei, sono, le assicurazioni sono una truffa legalizzata. Prima di tutto lo Stato doveva mettere un limite ai prezzi, pensa che la Unipol mi ha chiesto per assicurare lo scooter 125, mi ha chiesto roba di 650 euro all'anno. Ma voi siete scemi, io pagavo 3,80 all'anno il primo anno, lo sai, 3,80 all'anno. Poi ho pagato 400 all'anno con l'altra assicurazione, 200 semestrale, no, 400 all'anno. Però la Unipol ci sono rimasto secco io, ciao per dire, ma voi siete pazzi, siete pazzi. E dice che i cinquantini pagano ancora di più, certi si sono messi a chiedere 700 euro B, dice perché è una classe di moto che hanno incidenti. Ho detto, ma io non è che mi posso pagare gli incidenti degli altri, no, dei ragazzini, perché sono i ragazzini che fanno degli incidenti. E appunto, per cosa sto dicendo? Meglio prendere un motorino elettrico, non paghi l'assicurazione, le bombe e niente, si attacca l'altra, si attacca, hai capito? Non si è obbligato a pagare niente. Così c'è scritto, cioè così fa la pubblicità su TC, se basta guardarlo, c'è lo scooter UFO, ce n'è uno che ha normale, ci può sedere in due, l'altro invece c'ha tre ruote, c'è la, e gli si lo metti tu e basta, c'hai i braccioli da una parte e i braccioli dall'altra addirittura, guardatelo su TCS, io detto, non paghi né assicurazione, né bollo né nulla, quindi conviene così, adesso non so quanto viene la verità, perché non ho telefonato per curiosità, ma se dovesse per dire costare 3-4 mila euro l'avrei comprato subito, tanto l'hai motivato subito, a un certo punto, a me non pago assicurazione, se la toccano in culo, se la toccano. Ma sicuramente queste moto, come le macchine a batteria, queste moto a batteria prenderanno piede subito, in fretta, e allora sicuramente le regolamenteranno e dovrai pagare anche lì bollo assicurazione, vedrai. Lo fanno sempre, l'Italia è un paese secco, me, capito? Se puoi spremere dal cittadino ti spreme fino all'osso. Non ti credo, ricordati che la roba elettrica c'ha degli sconti in Italia, hai capito? Come in Germania, quindi ci stanno obbligando a comprare macchine elettriche, moto elettriche, per non, come, capito, per non inquinare, quindi a un certo punto ne vale anche la pena, hai visto le macchine tedesche, le diesel, tutto un troiaio, ecco. Compresa anche quelle italiane, più che casino lo fanno, fino a un certo punto. Vabbè, adesso dopo tanti anni il diesel non va più bene, ci sono delle mafie, Antonè, c'è una mafia anche lì, ma capito, le mafie inteso come intrallassi, ci sono in tutti i campi, magari vogliono favorire qualche altro tipo di veicolo, non lo so, allora le macchine a gasolio non vanno più bene. Vabbè Antonio, io vado adesso, però dai, devo fare il caffè e poi tra poco ci sarà qualche film, dai, ci accettiamo i verticali, poi. D'accordo, ok, ci sentiamo, là. Buon proseguimento, buon tutto, buona cena, buon caffè, buon tutto. Ci vediamo al limite domani, non c'è problema. Quando vieto. Tanto domani a te mi devo fare la resta, quindi vi vorrei tu. Ok. Ascolta, ma tuo nipote, beh, aveva poi avuto il bambino? Ce l'ha fra poco, penso che sia questa settimana. Eia, mamma mia, già se l'ha messo il vino in fresco, così giovane, vabbè. D'altronde è anche bello avere figli da giovane, perché ci vuoi più d'accordo quando sei giovane tu, capito? Così piccolo, invece quando c'hai 40 anni, caspita, il figlio ne ha 10, ne ha 50, quando ne ha 20, ne ha 60, e c'è già questo divario generazionale, capito? Poi dipende dai figli, dai genitori, eccetera. Ciao Antonio, ciao, saluta Simona, ciao. E io tanto, ci sentiamo domani là, al limite, io ti chiamo io. Se sei sveglio, ci beviamo una cosa domani sera, da quella ragazza nuova che c'è qua sotto, che così meno ti innamori, ti piace e te la sposi. Ah, non al circolo, no, al bar sotto casa tua. E allora, c'è una ragazza bella, c'è, ma bella davvero, Cioè, ti mando la foto, ti mando. Ok, da, ciao Antonio, già sentiremo poi, ciao. E io che ciao, buonanotte.